This holiday season, you know what I have on my wish list? Adventure. That's why I got a new Honda during the Happy Honda Days sales event. They have a whole lineup of rugged, all-wheel drive SUVs, CR-V, Pilot, Passport. But at the end of the day, I drove off in a new HR-V with a bunch of safety features. And best of all, I got it on clearance. So don't just sit around knitting an ugly holiday sweater. See your local Honda dealer for Happy Honda Days clearance pricing today. Carissimi amici, fuck the system! Italian Podcast Network presenta Fatality. Videoludica, il lato B dell'industria del videogioco. Carissimi amici di Dietrologia Videoludica, bentornati a questo ennesimo nuovo episodio del nostro podcast, appunto Dietrologia Videoludica. Prima di dare i riferimenti, visto e considerato che questa è una puntata pregna e quindi cercheremo di essere abbastanza veloci, vi presento gli ospiti, che poi non so gli ospiti, perché dico gli ospiti, vi presento i partecipanti a questo episodio. Il primo è qui accanto a me, Marco Gualdi. Mi sento ospite, quasi quasi, non so, vado a casa e puzzo dopo tre giorni, però puzzi, ah, tu puzzi a casa tua? Pensa a casa dell'altro. Casa dell'altro è peggio. Peggio, ho capito. Torna dopo qualche episodio e anche ne ha ben d'onde, dopo insomma ne parliamo anche del perché e del per come, Carlo Mix, fucking sound, Burigana. Fantastico, questa è una presentazione che non mi ha mai fatto nessuno, ciao a tutti. Soprattutto fucking sound. Mi piace tantissimo, mi piace molto più di Carlo Mix, adesso lo cambio, facciamo... Esatto, potrebbe essere uno spunto. Beh, Carlo fucking sound Burigana. È figo. Potrebbe essere, che ne so, il suo avatar oscuro, esatto, no? Cioè il nickname, quello luce, e il nickname, quello buio. Potrebbe essere. E ovviamente quando si parla di videogioco duro, non può non mancare anche Giuseppe l'opinionista Saso. Mi sentite? Posso andare? Vado? No, parlo. A parte che vabbè, ce l'ho duro, ma questo era ovvio. ma neanche ne parliamo, insomma. Sì, no, avevo fatto quel preambolo prima perché, visto che alcuni ascoltatori dicono che io interrompo spesso, sempre, eccetera, a questo punto sto un po' più sulle mie, cerco di trattenermi e parlo, insomma, solo sì, quando è interpellato. Ci d'accordo per un segnale di, che ne so, metteremo delle luci. Ma infatti secondo me con Giuseppe una cosa è quando stai live con lui, perché allora ti capisci, ti agganci con lo sguardo. Se no bisogna comprargli dei block notice, così lui intanto si segna, perché se no se lo scorda, capito? No, nel frattempo utilizzate una campanella, ogni tanto scampanellate, allora capisco che devo parlare. No vabbè, vai tranquillo. Comunque i riferimenti del nostro podcast sono i soliti, quindi www.dietrologiavideoludica.it, che è il sito, @videoludo è il nostro Twitter. Dietrologia Videoludica la trovate come pagina su Facebook e Google Plus, soprattutto Facebook. Lasciate insomma i vostri commenti, che ci fa sempre piacere, ma soprattutto su iTunes, dove trovate ovviamente Dietrologia Videoludica, mettete le 5 stelle e fate tante recensioni, perché ho visto che ultimamente c'è stata un po' di attività. Poi magari ci ritorniamo a parlare la prossima puntata, perché non sappiamo neanche se abbiamo la posta. No, assolutamente. La prossima volta ci sarà. Noi mica siamo l'occhio del Beholder che ricevono a sganafascio, come si dice. Bene, ringraziamo il qui presente, poi ovviamente Carlo Burigana, che insomma ci ha fatto i nuovi assets della trasmissione, che ha reso Dietrologia Videoludica da così a così. Ma è un piacere, guarda. Avete visto il gesto della mano? È evidente. Guarda, lo faccio rivedere così a così. L'hai visto? Tu l'hai visto? Io però ho visto proprio, okay. Sono il testimone. No, è veramente un grande piacere. No, veramente sono fatto piacere. Continua a farmi i complimenti, perché dice, veramente sembra adesso una trasmissione radio. E infatti ci è venuta un'idea, ma ne parleremo più in là, insomma, perché non è ancora il momento. A questo punto io partirei con la prima rubrica, se non avete altro da dire. Ma sì, partiamo con la prima rubrica. Via. primo avvio. La persona che ha i primi avvii e ne ha in quantità abnorme, no, tant'è che di ridurli, esatto, insomma, l'abbiamo detto, no, se parli di tutti sei, poi nelle prossime puntate di che parliamo, giustamente. Allora, c'è Giuseppe che ha giocato un paio di giochi per noi. Ma solo un paio. Però ce l'ho anch'io un primo avvio. Ma tu è un po' datato. E perché devo rovinare il gusto di dire che pensa che non lo sapevo. Sto giocando a Neverwinter. Sono oramai una settimana. Ah, ma il gioco online. No. Neverwinter Nights, no, proprio, esatto. 2002. Che era online anche quello, volendo, c'era, cioè, il suo multiplayer, tra l'altro. E ci sto giocando notti intere, praticamente, sono già al secondo capitolo. Sentite che voce di merda che mi domandano, perché non esce dietrologia videoludica? Ultimamente sono stati dei problemi, dei ritardi e roba del genere. Perché sto giocando come quando sono tornato a 15 anni, a 20 anni, e questo mi ha fatto piacere. È tutta colpa dell'occhio del Beholder, comunque, chiaramente. Allora, Giuseppe. Allora, io in realtà vi parlo di due primi avvii che però sono stati lo stesso acquisto. Cominciamo da quello più importante, che è la demo di Final Fantasy XV. Ah, episodio Dusk. Emo Fantasy. Sì, sì. Dai, dici. Perché no, sono curioso, Boy Band. È la Justin Bieber version. In realtà è stato proprio questo da qui il motivo per cui ho comprato il gioco che era allegato alla demo e non viceversa. Allora, è una demo della durata scarsa di circa 3 orette. Ovviamente comincia un po' in media res, ed è molto semplice l'antefatto. Si scassa la macchina e bisogna allora ripararla per proseguire il viaggio. Per fare ciò uccidere i mostri, sì, per ripararla, esatto, per fare ciò devi ammazzare in particolare un mostro bello cazzuto, come si dice in gergo ruolistico, che è il Behemoth, preso sempre dalla mitologia della serie di Final Fantasy, il cui corno dovrebbe praticamente fruttarti l'intera somma che poi andrai a pagare per ritirare la macchina a tale Cindy, che sarebbe la versione femminile di Sid di questo capitolo. E già, ne potremmo già anche parlare. un bel pezzo di gnocca bionda, comunque. Vabbè, la demo in sé ti permette, insomma, di provare diverse cose, sia il battle system, che devo dire è molto simile alla serie Kingdom Hearts, o anche allo stesso gioco con cui era allegato la demo, ossia Final Fantasy Type Zero. E quindi loro lo chiamano, se non sbaglio, sempre con l'acronimo dell'ATB, però questa volta è tipo Active Time Battle, perché proprio è un action vero e proprio, in tempo reale. Non ci sono No, esatto, assolutamente. È un hack slash che secondo me, Simo, a te può anche piacere, perché comunque è molto più dinamico che so di Dragon Age Inquisition, per intenderci. Devi solo far finta che non è Final Fantasy, non è difficile. Esatto. Secondo me non è neanche difficile. Ne parleremo poi di questa questione. Allora, non oggi, però ne parleremo. C'è da dire che a quanto pare queste mie impressioni sono sempre impressioni sulla demo, ricordiamolo, perché da quello che hanno detto pure gli sviluppatori di Square, allo stato attuale il battle system in sé è pronto, sì e no, tipo al 50%, una cosa del genere, quindi non è neanche quello definitivo, ma anche l'ottimizzazione generale ho visto che ancora sì, l'ottimizzazione sì, perché tecnicamente, nonostante sia impressionante, scatticchia ogni tanto, c'è qualche calo di frame rate proprio a random, neanche dici in punti predeterminati, può capitare che durante la battaglia, che può capitare anche durante l'esplorazione. Il battle system, in pratica tu comandi solo il protagonista principale, che è sto tale Noctis dai capelli corvini, e in pratica puoi anche inanellare una serie di combo personalizzabili, perché lui praticamente in pratica evoca tipo le varie armi, no? Quindi puoi passare tipo da fare tipo menare due fendenti di spada, puoi passare alla lancia, puoi passare a quello che alla spada, allo spadone a due mani e così via, e tutto questo dura durante, diciamo, il menu che puoi aprire in qualunque momento anche durante la battaglia attraverso la pressione del pulsante, quello touch della PlayStation 4, proprio ti metti, apri il classico menu alla Final Fantasy e ti metti in pausa pure il gioco, un po' come la pausa tattica dell'anello della ruota del Dragon Age. Ogni tasto è assegnato un'arma, o perché io vedevo, cioè, tipo ogni... le bombo che lui no, prende, no, una c'è, spada, c'è. Poi ne prende un'altra, poi ne prende un'altra, cioè. No, no, quello lo decidi tu, l'ordine delle combo. Tu puoi decidere di fare un attacco normale, che è associato alla pressione di un tasto, mi pare, o X o quadrato, adesso non me lo ricordo perché ci ho già giocato da diversi giorni. E poi hai associato ad altri tasti la possibilità di lanciare magie, che puoi comunque, anzi, una magia attiva che comunque puoi con la croce direzionale selezionare via via in tempo reale. Ovviamente i tuoi membri del party sono gestiti da un'IA per i fatti loro. Poi puoi anche fare un attacco che è tipo, che ti posso dire, presente tipo il rampino di Batman, dei vari Batman, che praticamente lui scaglia la spada e in alcuni punti praticamente proprio lui come se si appendesse, si teletrasportasse dove si è andato a conficcare la spada, che è anche una mossa, oltre che per tirarti fuori dai guai, a quanto pare, stranamente, mentre sei appeso, la tua energia e il tuo mana si... ripristinano più velocemente. Poi, esattamente come negli action, c'è la possibilità di schivare, di fare la parata, di fare la parata con la counter, ovviamente a seconda degli attacchi che possono essere parati o bloccati. Insomma, è abbastanza complesso e non mi è dispiaciuto. Certo, ho detto, non è quello definitivo e c'è da prenderci la mano, però proprio la demo comincia con un vero e proprio, cioè ti chiede, vuoi fare il tutorial per il combattimento dove ti spiega praticamente tutto. Poi, per quanto riguarda l'esplorazione in sé, l'abbiamo detto, un open world, anche questa area dai quali, diciamo, non si, teoricamente non potresti uscire da alcuni confini, cioè a un certo punto nelle strade vedi proprio il muro invisibile che non ti fa andare con tanto di zona delimitata, anche se dei furboni ce l'hanno fatta facendo col trucchetto di farsi spingere oltre i confini mentre ti fai mettere sotto dalle auto che passano per strada. Però diciamo, per il resto, per l'esplorazione, ho detto, è proprio classica. Ci incontri casuali avvengono proprio in tempo reale, cioè mentre tu stai camminando, a un certo punto, se incroci in lontananza lo sguardo del mostro che ti vede, c'hai una specie di barra rossa in alto che si va a riempire, allora tu hai un certo lasso di tempo in cui puoi decidere o di magari di allontanarti, oppure siccome c'è la possibilità tipo di calarsi stile camminata stealth, no? Alla solita Snake. Ecco, tu ti puoi anche nascondere magari dietro una roccia, dietro un albero, e sperare di non farti vedere. Ma quella cosa serve veramente o è una così, l'hanno messa tanto per? La puoi usare, poi il gioco ovviamente in una sezione della demo, cioè quando stai a seguire le tracce del Behemoth, ti costringe anche ad usarla, vuoi anche per introdurtela, no? Poi comunque la demo, detto, ti fa esplorare questa grossa area che è abbastanza lussureggiante, ci sono qualcosa come 4 tipologie diverse dei mostri, incontri pure degli chocobo, anche se non li puoi catturare, vai pure, ci sono pure, diciamo, dei piccoli insediamenti in cui c'è puoi il bar, visto c'è il bar. Sì, c'è il bar dove puoi comprare di fatto, tipo il supermarket dove, che vende però code di fenice, cibo e altre cose, dove puoi anche rivendere, perché ovviamente ammazzando i mostri tu non è che non ti droppano ormai più i ghill, ma insomma oggetti tipo i rimasugli, che sono tipo la zanna di sto mostro piuttosto che la piuma di quest'altro, allora tu tutta sta queste cianfrusaglie le vai a rivendere per ottenere soldi. Poi la cosa particolare è che praticamente tu, anche quando finisci una battaglia, lui sì, ti dà una valutazione, ti dice più o meno quanti punti di esperienza hai preso, ma di fatto questi punti di esperienza tu non li sfrutti fin tanto che non vai in un accampamento e tu cucini. Esatto, e ti metti anche a cucinare. Il fatto del cucinare in realtà non è nuovo, cioè non è nuovo per, è nuovo per la serie magari di Final Fantasy, non è nuovo per tutti gli altri giochi di ruolo, perché chi viene da altre serie tipo Tales of la serie Tales of sa che queste cose erano già state introdotte più di 10 anni fa. In pratica, quando poi vai all'accampamento, c'è, cioè, il fatto che appunto sta mini scenetta dove loro si accampano, tipo fanno il barbecue, mangiano, e quindi a seconda del piatto che tu prepari poi puoi avere dei bonus per la giornata successiva, anche perché quando ti accampi, diciamo, è come se ti accampassi per la notte, no? In pratica, in quel momento tu l'effettiva esperienza accumulata dalla precedente volta in cui sei accampato ad adesso, in pratica viene effettivamente aggiunta ai tuoi personaggi, che salgono di livello, che quindi vedono le loro statistiche crescere. E poi un'altra cosa che è possibile fare, ma nella demo era bloccata, era la possibilità di sostituire in questi momenti le assegnare le varie abilità apprese, che ovviamente nella demo erano fisse. Poi la cosa bella è che c'è anche un'alternanza, un ciclo giorno-notte dinamico continuo, quindi vedi effettivamente il sole che va, con le varie ombre che vanno via spostandosi. Poi quando arriva proprio le prime, cioè il tramonto, e subentra l'oscurità della notte, vedi che loro c'hanno tipo le torce, camminano con le torce per muoversi. Ecco, nel momento in cui c'è appunto questo passaggio, effettivamente le creature cambiano, cioè alcuni mostri non li vedi più, li vedi solo di giorno, altri subentrano di notte. Ovviamente, manco a dirlo, di notte è più pericoloso andare in giro. Detto questo, mi pare che più o meno, comunque, vabbè, impressione generale, molto molto bello, interessante. Secondo me era l'evoluzione desiderata per Final Fantasy, perché, cioè, si vede che sono rimasti scottati, se vi ricordate, da tutti i vari capitoli di tipo il 13, che era un unico corridoio, come molti l'hanno definito, quindi hanno voluto fare insomma le cose in grande e fare appunto tornare l'esplorazione. 13, secondo me veramente il momento, sì, più tosto era quello della caccia, lì si siamo arresi proprio. È stato un momento che poi era l'unico momento in cui potevi andare effettivamente liberamente in giro, no, a zonzo. Sì, peccato che era piuttosto delimitata la cosa, cioè dovevi farlo in quella zona, sì, per andare a ammazzare quei mostri lì, poi basta. Altro che noi eravamo convinti che dovevamo raggiungere un certo livello e abbattere tutti quanti i mostri prima di andare avanti. In realtà poi alla fine potevi andare avanti uguale, sì, è solo che quella parte è talmente estenuante, veramente, che c'ha. Devo dire che mi ha anche impressionato tecnicamente, anche molto oltre che il motore grafico di per sé, anche molto per esempio l'orizzonte, perché comunque vedi davvero molte cose in lontananza, oltre che appunto mostri eccetera, quindi tecnicamente impressionante. Beh, dopo che sono stati 10 anni tecnicamente indietro, insomma, era pure ora che recuperassero insomma un po', magari. Sì, no, c'ho una domanda. Dicevi? Ho visto un video, ma senza spoilerare, magari a chi non vuole sapere cose, però ho visto un video dove c'è un'evocazione che, da quello che ho capito, è l'unica disponibile sulla demo, giusto? Mi confermi? Sì, perché praticamente la demo è così, tu vai alla caccia di sto behemoth, ho detto, la incontri in più fasi, prima ci vai dietro per capire dove è la sua tana con quella sezione stealth, poi provi e loro fanno una specie di piano per buttarlo giù, non funziona, allora poi devi scappare, poi effettivamente viene a sapere che ci sta da qualche parte un'evocazione da prendere, ti fai quest'altro, che poi è l'unico dungeon al chiuso, perché poi tutta questa sezione prima era tutta all'aperta tra foresta e cose, che poi devo dire la parte pure con la foresta è molto bella, cioè perché la caverna sembra proprio una grotta di quelle reali, non diciamo la classica caverna da dungeon dove diciamo l'interno sembra tipo fatto de cioccolata, no, qua invece proprio sembra, diciamo, proprio le classiche caverne scavate tipo da fiumi sotterranei, no? E poi tu riesci a trovare qua, diciamo, una pietra che ti permette di evocare Ramu, che è il dio dei fulmini. Torni nella tana del behemoth e praticamente basta che la usi subito, che di fatto il gioco finisce, perché lui evoca Ramu e Ramu con un colpo, quindi stende il behemoth, cioè finisce solo così, o puoi... In realtà, aspetta, no, in realtà c'è gente che è stata, anche se le cercate su YouTube, gente che è stata così folle da livellare così così tanti personaggi che però tipo ci sono stati poi mezz'ora comunque da batterlo il Behemoth, però un po' sconveniente. Ma anche se sti cazzi, no, dicono. Esatto. Comunque vabbè, è un gioco di esplorare, ammazzare mostri, accamparsi e cucinare. No, a parte scherzi, è interessante la demo, devo dire interessante. Oramai non, nel senso di Final Fantasy in senso tradizionale, oh, forse c'è veramente più poco, no? Però ma guarda, sì, vabbè, parleremo di questa questione, non è, non è né fantasy inteso come medievale, né tantomeno inteso come, come Final. Il fantasy steampunk futuristico, è più un setting che ti posso dire pseudo contemporaneo, no? Perché insomma vedi ste città che possono essere uguali a delle città europee o americane, sì, sì, no? Sì. Ma io però non ho capito perché non si è fatto un gran parlare di sti fregni, no? Che dei personaggi, no? Sì. Questi un po' emo, un po' così. Ma alla fine, al di là del fatto che nella demo loro devono riparare la macchina, ma c'è qualche accenno alla storia? Chi sono questi? Sì, sì, no, vabbè, sin dal, anche diciamo dal, dalla schermata di caricamento ti dice che con l'antefatto di che cos'è che andavano in giro, che in pratica lui è un, perché infatti si riferiscono al, al personaggio in tono reverenziale chiamandolo Altezza, perché lui è una specie de principe scappato col suo entourage a seguito di un colpo di stato. Ah, ok, beh, vedi già. E quindi vai a fare il morto di fame. C'è sempre la parte sociopolitica. Esatto. E va a fare il morto di fame, va in giro. Dice, vabbè, però c'è i 3-4 sgallettari che si è portato dietro. E non c'ha manco i soldi poi. C'è manco i soldi. Però c'ha il macchinone. C'ha il macchinone, però vedi che vanno a riparare. Vabbè, allora, questo è Final Fantasy 15, pensa. Sì, esatto. Siamo arrivati a quanta acqua sotto i ponti è passata dai primi Final Fantasy. Che tu lo hai giocato come demo, demo giocabile in via temporanea, tra l'altro, se acquistavi Final Fantasy Type 0, che a questo punto è il gioco di cui parliamo, perché stiamo parlando, sai, di questo remastered in HD di un gioco che era finto remastered. Anzi, cioè, un gioco che averlo fatto uscire quasi motivatamente, diciamo, insomma. Sì, allora era un gioco ai tempi uscito solo per il suolo giapponese, per la PlayStation Portable, per la vecchia PSP, mi pare è uscito in Giappone il 27 ottobre del 2011. In pratica questa versione dovrebbe rimasterizzata, dovrebbe avere delle texture un po' migliorate, ha tolto ovviamente, perché l'originale ti permetteva pure di giocare attraverso la funzione di co-op locale, no? Con altri giocatori che avevano, diciamo, altre PSP. Qua questa è stata cassata del tutto, quindi è un gioco solo in single player, e devo dire che graficamente a me sembra di vedere un gioco non PlayStation 4 ma PlayStation 3 come generazione. Beh, diciamo sì, tra PlayStation 2 e PlayStation 3, sì, le texture sono abbastanza povere, devo dire. Poi per il resto ti ho detto fondamentalmente pure questo un gioco action, però comunque molte componenti di Final Fantasy ce li ha, perché comunque in ogni caso tu c'hai sempre la possibilità di esplorare la mappa per andare a zonzo nei vari posti, nei vari dungeon. C'è un inizio drammatico proprio. Sì, è uno dei Final Fantasy più cruenti, perché insomma scoppia la guerra, cioè comincia subito con un colpo di stato, un'invasione da uno di questi quattro regni e muoiono un sacco di persone. In pratica però dove poi scappa quello del 15, chi può no. Questa ambientazione è un po' più fantasy per certi sì, anche se in realtà sia il Type Zero che quello, diciamo, che prima era il Versus 13, adesso ribattezzato 15, dovevano far parte della stessa dello stesso universo anche del 13, che era la Fabula Nova Crystallis. Poi in realtà anche questo qua, ha detta pure di Tabata, di tutti gli altri di Square Enix, ha pochissimo a che spartire con tutta quella serie. L'unica, diciamo, vera similitudine che si vedeva dal 13 era che anche qua ci sono gli LC. I tizi, quelli, diciamo, che ottengono i poteri, no? Come i protagonisti del 13. Ma a parte questo, poi ha un setting proprio molto più medievale, che addirittura mi ha ricordato per certi versi. Avete presente le scuole di Harry Potter? tipo cos'è, la serpe, Grifondoro, queste cose qua. Bene, questo diciamo è il setting del gioco, perché praticamente segui questi 12 più, quindi questi 14 tizi di questa accademia, di uno dei quattro imperi, che sono la cosiddetta classe zero, che devono insomma fare tutta una serie di missioni per poter ribaltare le sorti del conflitto. Che diciamolo, non è che verteva proprio tanto a favore, insomma. Eh sì, perché il gioco infatti comincia con l'assalto alla capitale dell'accademia, dove sta la classe zero, che insomma, che devono difendersi. Curiosità, il cattivone che si vede sin dall'inizio del gioco, quindi non faccio nessuno spoiler, sin dal filmato iniziale, che è appartiene all'altro, a uno degli altri, delle altre nazioni, che è quello delle tigre bianche, si chiama Sid Austin, e quindi è un altro gioco dove Sid è il cattivo, perché ricordiamolo che ci stava pure in Final Fantasy 12, è quasi Sid un'anomalia cattivo. Infatti sì, però, sì, sì. Comunque, vabbè, diciamo che il gioco va più o meno alla domanda che ti facciamo, penso che sì. È unica, così almeno sì. Vale la pena, nel senso, essendo una pseudo remastered. Allora, non vale la pena a prezzo pieno, vale la pena solo se te vuoi giocare la demo di Final Fantasy XV. Ecco, dici, quello secondo me è stata l'operazione importante. Sì, decisamente. No, perché, per carità, il gioco è bellino, però per come te lo propongono come gioco ex novo, no, a prezzo pieno no. Cioè, se l'avessero fatto uscire, che so, come gioco in digital download, no? Quindi la fascia dei 20 euro, allora ci sarebbe anche valso la candela. Perché quant'è la cifra di esborso? Quanto un gioco nuovo per PlayStation 4? Quindi tocca la settantina di euro, per intenderci. No. È vero, no. È vero che ritorniamo sempre al discorso che ci giochi ore e ore. Esatto, è bellissimo, anche perché a quanto pare, però ripeto, è un primo avvio quello che state sentendo, quindi non posso confermare niente. C'è anche un New Game Plus che ti fa vedere, diciamo, poi altre finali, altre cose. Quindi comunque va giocato più e più volte. Il che sommando significa che almeno un centinaio di ore ce le puoi fare. Quindi ti dura come un Final Fantasy. Final Fantasy, la demo ce l'hanno fatta pagare, secondo me. Sì. Beh, ma decisamente. No, comunque è un'operazione un po' così, insomma, di mezzo, che vabbè, però comunque bene. Quindi Final Fantasy Type Zero e soprattutto la demo di Final Fantasy 15 sono ovviamente i primi avvii. Io sono incuriosito di questo Final Demo 15, bello. Vabbè, dopo che hai giocato con me il 13, penso non giocherai più Final Fantasy. Non dire così. Questo favoloso, come dice un mio amico, favoloso episodio douchebag anziché dusche. Ma guarda, veramente, cioè, in realtà mi dispiace, perché cioè, nel senso, il 13 ci eravamo pure appassionati, eravamo arrivati a un punto, però poi dopo, vabbè. Comunque tu, Carlo, c'hai qualche primo avvio? Ma no, diciamo che l'unico primo avvio che vi posso dire è Dragon Age, che ho comprato dopo 6 anni che no, è uscito. No, basta. No, Inquisition, Origins, Aspetta, comunque... almeno ti sta piacendo solo questo, almeno puoi dare il tuo parere personale. Beh, dai. Guarda, da estraneo completamente alla saga, purtroppo, a mio malgrado, mi rendo conto, insomma, di essermi perso qualcosa di importante. Insomma, sicuramente è un bellissimo gioco che va testato ore. Insomma, spero di averci tutte queste ore per riuscire a assaggiare, diciamo, la bontà in te dell'opera tutta. Come direbbe Maccio Capatonda, però vediamo, insomma. Invece io, da GOG, appunto, come ho detto, Neverwinter Nights, tra l'altro anche localizzato in italiano, con tutte le espansioni a 5 euro, quindi insomma vedete che ho fatto una gran furbata. Sì, questo significa proprio aspettare l'ultimo momento per avere pezzi più bravi. No, quanti anni aspettare? No, 12? No, perché in realtà Neverwinter Nights e Torment erano praticamente gli unici importanti giochi di ruolo di quella generazione che io non ho giocato, e quindi non potevo non farli. E in realtà, con questa nuova tendenza a far uscire questi nuovi giochi di ruolo anche con vecchi engine di progettazione, come quelli quelli di ex BioWare e roba del genere. In realtà mi sta piacendo a rituffarmi, insomma, in questo mondo che in realtà mi ha fatto riscoprire quanto mi piacevano quei giochi là, e quanto ne ho sentito anche la mancanza, pensate, fino a che non li ho giocati. Quindi, una droga. Quindi è pure colpa di Peppe, che da quando colpa tua Peppe, perché lui Peppe poi ogni tanto sul tiro salvezza e roba del genere tira fuori questi titoli e io mi vado a spurciare, poi dico cazzo, questo voglio giocare, allora me lo metto in wishlist, e poi wishlist dopo diventa adesso ore e ore dei giochi quelli, non è che... allora scusa, facciamo l'appello affinché qualche buon ascoltatore ci regali sia a me che a te, che abbiamo entrambi sicuramente in wishlist Pillars of Eternity, così possiamo fare un primo avvio decente. Eh sì, perché costa troppo. Però pensandoci un attimo, lasciatemi pensare, no scherzo, no guarda, il ritmo radiofonico esatto, di Carlo Buriano, no era come dire, devo pensare un attimo, no, ho giocato due bellissimi giochi, vabbè mo bellissimi non esageriamo, però diciamo ho sfruttato finalmente il discorso PlayStation Plus, insomma giochi scaricabili che non scarico solamente lascio lì macerare, insomma tipo l'aceto, insomma sì, anche io. Ma ho giocato anch'io. Ai famosi giochi di marzo, mi pare, no Giuseppe? Sì, marzo di PlayStation 3, però attenzione, che sono Papo Yo, che è un gioco indie, e Sherlock Holmes Crime and Punishment. Ma quello è per il 3, però va fatto. Sì, sono tutti e due per PlayStation 3. E vabbè, comunque guarda che insomma fra la PlayStation 4 e PlayStation 3 non è che ci sia sta grande differenza su Sherlock. Che vabbè, mo c'ho installata la PlayStation 4, quello che mi frega. PlayStation 4 però l'hanno messo in saldo, leggevo, insomma, l'hanno messo in saldo pure a un prezzo mica male, mi sembra abbia toccato tipo i 14 euro addirittura, insomma, che per un gioco così non è affatto male quel prezzo, gliel'avrei anche dato. Ma dei due, Carlo, quale ti è piaciuto? Guarda, sono due giochi così diversi, insomma, però avevo sentito parlare abbastanza male di Sherlock Holmes, devo essere sincero. Provenendo da Murdered, Soul Suspect, no, tutta quella serie di provenendo da lì qualsiasi cosa, esatto, è buona. Provenendo da lì, insomma, la benissimo. No, fatti scherzo, nel senso che c'ha un po' è un po' come dice dopo che hai mangiato la merda, qualunque cosa ti sembra cioccolato. Perché Murdered? Perché comunque c'ha dei punti in comune, no? Comunque una raccolta di indizi, bisogna dedurre delle cose. Ma su Murdered ovviamente no, però su questo gioco sì, puoi dedurre, insomma, come... Vabbè, Sherlock Holmes è più un'avventura grafica, stile tradizionale. Devo dire che non mi è dispiaciuto affatto. Gli hanno dato un dinamismo, gli hanno dato anche un'estetica, insomma, ben fatta. Peccato che tecnicamente a differenza scatta da morire su... è terrificante. Cioè l'ottimizzazione quel gioco su PlayStation 3 è agghiacciante proprio, mi dispiace, perché tutto sommato un gioco che merita, non a prezzo pieno, però merita, sì, quello sì. Per cui ma a differenza di Murdered, se sbagli le deduzioni almeno Sherlock Holmes ti penalizza, muore, oppure... No, scherzo, non è vero, no. E se sbagli le deduzioni credo che tu possa andare avanti. Io penso che sia stato il cameriere, no. Watson gli spara, no? Dice stronzo, è sbagliato. Tu devi raccogliere indizi, devi concatenare fra loro, e questi indizi si concatenano come se fossero delle cellule dentro il cervello, insomma dentro la materia grigia di Sherlock Holmes, per poi arrivare, insomma, creando dei nodi, appunto, di congiunzione fra questi indizi, fino ad arrivare a una deduzione che può essere una delle diverse deduzioni che puoi avere in base agli indizi che hai. Tu puoi teoricamente anche dedurre chi è stato l'assassino quasi fin dall'inizio, insomma quasi fin dalla raccolta dei primissimi indizi, però ovviamente non ti conviene, perché ha voglia a te a scoprire, insomma c'ha un ritmo, c'ha una cadenza molto lenta, serve avere un pochettino di pazienza, è un po' old school, mi viene da dire, no, come impostazione. Però guarda che, cioè, ero mi aspettavo una roba terrificante, perché ne avevo sentito veramente peste e corna, e invece devo dire che mi è piaciuto tanto. Non gli avrei mai dato 60 euro, quello no, però sicuramente, cioè, chi ha il PlayStation Plus e che lo volesse, comunque è indeciso, insomma, se vale la pena o no scaricarselo, lo faccia, perché non è affatto male, insomma, specialmente chi ama come me le avventure grafiche. per cui sì, ma probabilmente le critiche venivano un po' più dai puristi dell'avventura grafica, perché in effetti poi nel tentativo di commercializzarlo molto era un po' un ibrido sto gioco, in realtà. Però non, però era comunque una pura avventura grafica fondamentalmente, non ci sono party action, no? Diciamo party action in quanto tali no, però ogni tanto succede che magari il gioco ti fa giocare nei panni di un altro personaggio che magari dice, che ne so, prendi la mira e spara, oppure magari devi salvare Sherlock Holmes, quindi ti fa diventare Watson per, che ne so, sparare al tipo che lo sta per uccidere, cose così. E poi è pieno proprio di minigiochi. Ogni raccolta di prove che lui magari, ne so, trova il capello, allora lo porta a casa, prende il microscopio, lì c'è il minigioco, deve scassinare la serratura, lì c'è il minigioco, deve fare il calco, le cose, lì c'è il minigioco, tutti i minigiochi che possono essere saltati. Era peste e corna, peste e corna tutta la vita, i minigiochi che possono essere comunque saltati per dare quella alla priorità a quella che è la trama, ovviamente, per chi vuole gustarsi la trama. Allora, se possono essere saltati, ovviamente ne ho saltati tanti, perché comunque alcuni sono un pochino troppo cervellogici, per essere sincero, però niente di realizzabile, insomma, niente di difficile, semplicemente devi avere pazienza, che magari, insomma, pazienza che tu non vuoi avere per un minigioco, non ti vuoi fermare, capito, mezz'ora, apri la serratura, dici salta e buonanotte al secchio. Però in questo senso funziona, devo dire che... Questo mi ricorda l'infame meccanismo della scassinare le casse su Revelation 2, cioè non ne parliamo, perché veramente infami, maledetti, dove state? E se vi prende la diarrea, dove state? Insomma, è veramente una cosa fastidiosissima, cioè proprio, vabbè, comunque va bene, benissimo Carlo, scusate ma veramente siamo andati un po' oltre di solito i nostri standard. Infatti questa puntata è dedicata ai primi avvii. Adesso finiamo, ho fatto per 40 minuti di trasmissione. Ma una puntata tutta sui giochi che abbiamo giocato freschi sarebbe carino. Pure fa più conversa, fa una cosa un po' da bar che non facciamo mai noi su Dietrologia. Bene, andiamo avanti con la prossima rubrica, che è ovviamente la rubrica centrale. E ricordatevi sempre Neverwinter Nights. Osservatorio Dietroludico. Ed entriamo in Osservatorio Dietroludico di questa puntata, che si intitola la tristezza la solitudine dell'Hardcore Gamer. Sì, penso potevo anche chiamarla, che ne so, la bassa marea sotto il plenilunio. Perché io l'avevo chiamata in un'altra maniera la puntata, tu che gli hai dato un titolo. Ti ho fatto copia e incolla, però va bene. No, non è così. No, assolutamente no. Vabbè. Comunque, diciamo questa cosa qui, e si parla di Hardcore Gamer, e questa è una puntata che ha pensato Marco molto tempo fa, diciamo, era nel famoso piano di produzione sotto la luna, esatto, il famoso piano di produzione degli albori di Dietrologia Videoludica. Però poi oggi ha detto vabbè, ok, ho fatto la scaletta. Poi Giuseppe, falla tu. E quindi Giuseppe si è sbattuto all'ultimo. Mettici le mano. Esatto, plurale, in faccia te le deve mettere le mano. Infatti. Comunque, grazie Giuseppe, che diciamo ci ha messo una pezza come al solito. No, aspetta, diciamo però le cose come stanno. Comunque, quando poi c'è stata la preparazione effettiva, c'è stato uno sforzo comune, collaborativo, perché ho visto in contemporanea che scriveva pure qualcosa Carlo e pure Marco. Esatto. C'era il gatto che camminava sulla tastiera. Va bene, allora, ma Marco, allora, vuoi fare una precisazione? L'hai fatta? Era questa? L'ho fatta. Okay. Va bene. Dunque, allora, se poi ne faccio un'altra. Facciamone un'altra. Io mi ricordo che il titolo era un altro. Bene, il titolo era un altro. Comunque, andiamo a leggere quella che è un po' l'introduzione. Salta sei morto. Ecco, l'esperienza dei videogiochi di un paio di decadi fa era questa. A volte frustrante, a volte da far sbattere il joystick sul muro, ma andavamo avanti lo stesso, forse perché c'era solo questo, o forse perché più avvezzi alla sofferenza, in senso lato, ovviamente. Quindi qual è il tema principale della serata? È forse il joystick che viene buttato sul muro? Non credo. però in qualche modo potrebbe anche essere del riflesso, e potrebbe essere l'ammorbidimento, ma l'ammorbidimento della, dell'industria videoludica, diciamo, quindi della, della differenziazione tra quello che viene definito hardcore gamer e quello che è invece il casual gamer, cioè il giocatore che ci gioca così a caso. Che ci sono molti aspetti da affrontare. Infatti c'è un punto della scaletta che è ultimo, ma che io direi di mettere subito, perché così mi pare giusto. No, perché è giusto di dare subito una diciamo, è bello partire dalla fine, giusto? Beh, partire dalla fine, perché gli ultimi saranno. La bambina muore, ecco, alla fine, è già morta, quindi essendo la fine. Quindi che cos'è l'hardcore gamer? Come si può intendere come hardcore gamer? Okay. Sa, Giuseppe. Giuseppe, partiamo a Giuseppe. Visto che tu sei quello che mette le mano. No, allora, in realtà io prometto innanzitutto che hardcore gamer non esiste una definizione univoca, perché potremmo fargli dare diverse accezioni. C'è l'accezione agonistica, che è magari quella che è più consona al tema dell'osservatorio, cioè della difficoltà dei videogiochi. E allora l'hardcore gamer per eccellenza è colui che riesce comunque alla fine a portare a termine un gioco al 100%, a tutte le difficoltà, soprattutto quella più elevata, sbloccando qualunque obiettivo nell'elenco di quelli sbloccabili, riuscendo in multiplayer ad essere sempre il primo in classifica, quindi a pwnare tutti gli altri poveri giocatori online. Quindi secondo questa eccezione si potrebbe definire l'hardcore gamer. Io ovviamente in questa classificazione non mi ci ritrovo. Io però potrei per esempio dire che l'hardcore gamer potrebbe anche essere, altra definizione che abbiamo, colui che invece magari è uno che gioca da tanto tempo, quindi da anni, decenni, oserei dire, magari anche una vasta cultura videoludica che spazia anche tra più generi, riesce a fare comparazioni tra titoli differenti senza magari lasciarsi, insomma, spostare un po', far prendere un po' troppo la mano e scadere nel fanboismo, e soprattutto si diverte a giocare un sacco con i videogiochi, ritenendoli una parte importante della propria vita e del proprio tempo. Allora, in questo caso, in quest'ultima definizione, io mi ci ritroverei come hardcore gamer. Però, detto questo, appunto, ci sono diverse... cioè, non è una definizione univoca, ci sono diverse interpretazioni. Se vogliamo anche di per sé fare l'analisi pure etimologica del termine, hard dall'inglese che è duro e core nocciolo, quindi cosa importante, quindi colui che, diciamo, si impunta su qualcosa, non si distrae, riesce a portarla a termine, quindi volendo potremmo comunque dare per buona il discorso del, appunto, quello agonistico di cui facevo prima. Però in questo caso, ripeto, io non mi ci ritroverei, perché per me ormai, vuoi anche perché pure io sto invecchiando, per me i videogiochi ormai sono un'esperienza così che deve essere piacevole, dove non mi ci devo sbattere più di tanto con la difficoltà. Poi c'era pure un'ultima cosa, ci sarebbe pure da fare anche la definizione secondo tale Mark Rubin, che diceva che il casual gamer sarebbe quello che si interessa di pochi giochini o anche di un singolo, e quello invece l'hardcore è quello che spazia su più titoli e soprattutto più generi, ovviamente essendo sempre bravissimo in tutti, quindi tanto negli sportivi a PES quanto negli sparatutto come COD, pure nei puzzle game che so, tipo Tetris o quello che volete, bravissimo pure con le chitarrine di Guitar Hero e quant'altro. Le chitarrine, io non ci ho mai giocato a chitarrine. C'è da dire, aspetta, comunque questa definizione, ripetiamo, è sempre sbagliata, perché comunque ci sono per esempio hardcore gamer che si interessano di pochissimi titoli, anche solo di uno, che so, prendete quelli che giocano a World of Warcraft, quindi solo a un MMORPG, però magari ci passano mesi, anni, eccetera, sono skillatissimi, sono capi di gilda, hanno tutti i super mega equipaggiamenti presi anche dai raid più difficili, ti fanno ogni settimana, ti vanno a ammazzare tutti i boss più complicati assieme alle loro gilde, e però non per questo anche loro dovrebbero essere comunque considerati degli hardcore gamer, no? Ma guarda, io penso che però se posso dire, però molto velocemente, perché sì, veramente non ho molto da aggiungere. Mm-hmm. Condivido, allora, secondo me è un po' complicato definire la classificazione di un videogiocatore su due fasce categoriche, cioè nel senso che secondo me c'è il giocatore più casuale, c'è il giocatore da intrattenimento, c'è il videogiocatore, che è forse la figura più tradizionale, e poi c'è il videogiocatore hardcore, che secondo me rientra nella prima tipologia che ha illustrato poi Giuseppe, cioè nel senso quello molto più competitivo, quasi agonistico, insomma, anche maniacale, forse a tratti anche un po' sborone, no? Per certi quello, sì. Quindi l'hardcore gamer, cioè nel senso, come ha detto poi etimologicamente Giuseppe, cioè in realtà il nocciolo duro, cioè quelli proprio nudi, duri e puri, che giocano al gioco duro puro, portandolo a fondo e considerando il videogioco soltanto i giochi che hanno quell'estrazione di sfida particolarmente impegnativa. Il resto sono tutta un'altra serie di sottocategorizzazioni, però già nella seconda tipologia che aveva illustrato prima Giuseppe, quello dove anche lui ci si riconosce e probabilmente anch'io, secondo me quello è più una classificazione da videogiocatore, cioè che il videogiocatore è il videogiocatore, basta, però senza stare a discutere. Persone che videogiocano da 10 anni, 15 anni, 20 anni, che continuano a farlo perché gli piace, e non per questo ci tengono particolarmente a avere la spilletta hardcore, perché probabilmente per esempio a persone come me non me ne frega proprio assolutamente un cazzo, e anzi, ok, annullate la spilletta. Era un messaggio di servizio. Ah, però se ci pensi, comunque l'hardcore gamer io l'ho sempre inteso, effettivamente io sono ovviamente Giuseppe mi trova d'accordissimo, anche con te, insomma son d'accordo con voi su questa insomma definizione. Io però l'hardcore gamer ho sempre pensato comunque a una persona anche un po', cioè come me, nel senso non nel senso appunto della compulsione di sbloccare obiettivi, trofei, cose, quello non mi interessa sinceramente, di giocare a tutto, di comprare tutti neanche i giochi questo, che escono e cose del genere, proprio no. Di seguire già la scena videoludica magari quotidianamente, no, per vedere cosa esce, segui forum, segui siti, compri giochi al lancio, tutta una serie di cose che ovviamente le altre persone non fanno, no, le altre persone magari è raro che qualcuno sappia quando però esce un determinato gioco. Però tu magari se comunque sei un giocatore tra virgolette hardcore, tu sai che magari ne so, dopo domani esce questo, fra un mese esce Batman, cioè che ne so, vado per cui comunque sia, ma poi ti informi, magari segui vari eventi ora che ci sono, sì, in streaming, appunto. No, comunque segui la scena, cioè ti preoccupi e dici la tua quando leggi appunto quelle cose tipo che so Kojima che se ne va, sì, no? Sì, sì, sì. No, vabbè, però cioè, io questo lo faccio quotidianamente, ma questo non fa di me un hardcore gamer, no? Sì, ma ci sono, dovresti non giocare per niente volendo, esatto, no, dico, ma in realtà il fatto è che secondo me, per come l'hai anche palesato tu Simone, in realtà è come se ci fossero tre categorie, cioè secondo me tu lo vorresti più considerare come tre categorie: l'hardcore gamer, quello appunto dell'agonismo eccetera, il videogiocatore normale che tu dici che è quello che comunque si informa, e poi la storia, esatto, cioè, quindi, esatto. No. E poi tutto il resto, che è quello che poi noi contrapponiamo sempre all'hardcore gamer, e che in realtà facciamo, diciamo, se non sei hardcore sei casual, che in realtà sarebbe quello che appunto gioca sia un gioco, manco se informa, non gliene frega niente di quando esce un gioco, va al GameStop e chiede insomma quello che è appena arrivato, e quello si fa bastare pure per sì, diversi sì, mesi, no? Sì, penso che soprattutto sia anche una divisione di tempo dedicato, quindi chi sì, esatto, dedica ma parecchio tempo, che poi può essere un gioco, due giochi, tre giochi, 10 giochi, 100 giochi, ma non solo a informarsi ma anche a giocarli, è ovviamente più hardcore che uno che si sì, gioca un gioco solo al cellulare, o che magari lo gioca sempre ma sta lì al cellulare e basta. Quello che, ma sai, io vedo che c'è molto, allora il fatto che esista la classificazione, anche se poi classificazione è un concetto un po' relativo, poi magari Marco chiude anche il punto, il fatto che esista la classificazione non significa che una classificazione classificazione sia un senso positivo. Per me è positivo per alcuni punti, alcune classificazioni sono negative, alcune classificazioni per altri punti, come in generale su ogni cosa. È chiaro che il pro gamer, quello che si compra il PC da 4.500 euro perché c'ha la Sound Blaster Cinema, c'ha la Nvidia bene, probabilmente, capito, però quella nuova che esce che so, due schede video insieme, roba, uh-huh, cioè quello è chiaro che ci tiene a essere definito, capito, in una determinata maniera, ma è anche il senso un po', non dico hardcore gamer, non è quello che dice che è un hardcore gamer. Vabbè, questo è relativo, perché io vedi pure su tanti su YouTube, no, che dice ah io so pro, io so qua, io so là, e giocano a, vabbè, poi questo è un punto che magari dopo lo affrontavamo, no, ai vari Soul, facendo dei vedere che magari non muoiono mai da inizio alla fine, però cioè secondo me lì poi di gioco c'è più, capito, cioè nel senso, il senso di gioco per come lo intendo io è meglio il pene. Sì. Vabbè, scusa, ma allora tanto anche hardcore gamer quello che il vecchietto che negli anni 80 ti finiva Pac-Man con un solo gettone, scusa. E quello era ancora più, perché quello era tosto, cioè nel senso, perché è vero, cioè, che non dobbiamo considerare, diciamo, la classificazione del hardcore gamer solo secondo appunto anche certe categorie pure di giochi, o magari gameplay tra virgolette limitato, no, che ha poche meccaniche, perché in realtà appunto la storia dimostra che anche molti altri giochi del passato in realtà erano hardcore per quel tempo. No, assolutamente, anzi di più, ecco perché poi ho detto, io riconosco molto più l'hardcore gamer, quello che riconosce nel videogioco una meccanica probabilmente storica che è nella sfida reale del videogioco, quindi nella tempistica, nella sincronizzazione, nel tempismo, in tutta una serie di aspetti che hanno fatto parte del videogioco storico, e in quello io riconosco allora un'abilità, e quindi l'accezione hardcore in quel caso io gliela do proprio come accezione positiva, cioè nel senso dico, veramente sei un cazzo di giocatore figo, ma non è una cosa che a me interessa, no, personalmente, quindi è un po' così, insomma, come ti discorso, non so, Marco. Ma io penso che è stato un po' detto tutto, diciamo che a parte il tempo è bello parlare per ultimo, io non lo si è detto tutto, infatti lo faccio apposta, così dico cazzo. Vabbè, ma almeno Marco, tu sei un hardcore gamer, in quale categoria ti rifletti, ti vedi riflesso, ti ci vedi? Ma io gioco molto, quindi dedico molto tempo, gioco un po' di tutto, gioco pochi FPS, molti giochi di azione, come si dice, terza persona, gioco molto GDR, quindi un po' di sportivi, adesso un po' di meno, quasi niente, diciamo. Segui molto la scena, hai molta esperienza pregressa, peccato, diciamo, per i neuroni che muoiono e non, diciamo che Marco è borderline, sta lì, può essere che sconfina nella, però poi dopo sai che se diventi hardcore gamer non può più fare dietrologia, non posso più farlo, infatti io mi fermo sempre a no, perché io faccio anche riferimento, vabbè, Giuseppe lo sa bene, ne discutiamo tante volte, a tanti commenti che sono arrivati su tanti dei nostri podcast oppure nei forum che abbiamo seguito, nei gruppi e roba del genere, quando ti dicono ah beh, a me il gioco AAA mi annoia perché io qua e là, ma la sfida mi piace, il gioco, fanno tutti gli mega esperti di qualche cosa, che per carità, stima profonda, però il videogioco è comunque, cioè nel senso, diventa in una società come la nostra, a un'età come la mia, diventa intrattenimento, quindi io mi devo, ecco, come ha detto Giuseppe, mi devo divertire, se non mi diverto e deve diventare una sfida assoluta col tempo, devo far vedere che io ho platinato quel gioco piuttosto che quell'altro, a me non me ne frega un cazzo, cioè, ma non c'è proprio il tempo, no? Non manco la voglia. Sì, ovviamente c'è da dire che c'è chi si diverte davvero in questa maniera, cioè ci sono, non è che tutti gli hardcore gamer non si divertono, perché no, comunque ma non è se vogliono complicare, è diverso, la vita, esatto, è diverso il concetto di divertimento, esatto. Cioè non è che io li critico, cioè mo sembra, esatto, che, esatto, sembra che adesso ce l'ho con loro, perché alla fine so io che sono invidioso perché loro sono bravi e io sono invidio del pene, cioè, esatto. Però in realtà non è così, cioè nel senso, oggettivamente io stimo e rispetto chiunque fa quello che fa e lo fa con divertimento, mi danno fastidio alcuni eccessi, insomma, ma in generale, ma questo su qualsiasi cosa, può essere dalla politica, alla musica, a qualsiasi cosa, cioè non è che è solo riferito al discorso del videogioco, quindi è un po' così, insomma. Poi Marco, vogliamo anche andare un po'... Ah sì, andiamo avanti, insomma, perché comunque abbiamo visto, parlando... Ma cosa? Secondo te tu sei, cioè nel senso, noi per esempio, se guardi meno... Tu sei casual gamer, assolutamente. Io so che... Tu giochi a caso. Io gioco a caso. Così io gioco a Neverwinter del 2002. SpongeX, no, sì. Quadrato X. Io gioco a Neverwinter, bello. Non è giochi a Neverwinter, perché l'hai comprato oggi coi salti. Scatolone, però va bene, no, per carità. Tu sei un, non lo so, un fucking gamer. Un fucking gamer. Tu sei un palavino di mezzo, perché tu sei, giochi casual, però anche hardcore. Però poi alla fine c'è tanti cazzi e non giochi a niente. In realtà. Questo è un po' un problema, è vero. Questo quindi potresti fare, cioè potresti, ma non ti impegni. Non sei intelligente, ma non ti impegni. Purtroppo è quello. Invece Carlo non lo so, perché non l'ho mai visto giocare, per cui potrebbe essere qualsiasi cosa. Giuseppe non ne parliamo. Io comunque gioco un po' di tutto, ma anche la differenziazione di hardcore gamer, poi quello che va ovviamente dai giochi degli anni 80 fino agli ultimi, e non trova, diciamo, ci passa senza la paura di farsi frustrare da meccaniche ormai belle che vecchie. Tipo, allora sei hardcore gamer in questo caso, perché tu stai giocando giochi vecchi, meccaniche morte ormai quasi. No, ma soprattutto difficili, cioè voglio dire, comunque non è che sono giochi facili, devi stare là, ci devi mettere. Però una cosa è metterci su un gioco che... Però giochi pure a The Order. Però gioco pure a The Order. Perché io sono un esploratore, a me piace vedere. Esatto. Piace vedere, sempre... Sei un guardone. No, ma sono appassionato di cinema e quindi di conseguenza sono appassionato di videogiochi anche dal punto di vista dell'intrattenimento narrativo. E aver visto un gioco bello graficamente come The Order per me è comunque stata una bellezza. Cioè, poi il gioco è quello che è. Abbiamo già detto. Premere quadrato. Sì. X. Tu non te sbagliavi uguale, quindi... Yeah. Perché non metti i comandi? Quando metti i comandi è un macello. Io non rientro nelle mie grazie. Perché mi fanno queste cose? Comunque, in ogni caso, andiamo un po' avanti con questa trasmissione, che sono 4 ore e 50 che parliamo, non abbiamo detto una cifra. Insomma, che praticamente abbiamo visto che c'è stata un po' di trasformazione negli ultimi decenni. Quindi si partiva da videogiochi dove c'era la penalizzazione del videogiocatore, cioè sbagliavi, morivi e potevi sbagliare solo un tot numero di volte. Giochi dove oggi tra checkpoint, salvataggi, respawn, autosalvataggi, tutorial che ti durano a volte tre quarti del gioco, proprio la giocabilità è diventata semplificata. Perché, secondo voi, perché c'è stata questa semplificazione? Parliamone, Giuseppe. Allora, non è innanzitutto una cosa casuale. Allora, ci sarebbe innanzitutto da dire che se è colpa, cioè di chi è la colpa? La colpa è di Pizzi e di Simone, che è appunto di tutta questa gente che gli piace il cinema e si mette a giocare ai videogiochi e vuole videogiochi come il cinema, no? Quindi se voi che state in ascolto, se i giochi sono sempre più facili, la colpa è di Simone. Mandatemi delle mail di insulto, a parte gli scherzi. Comunque il discorso è sempre è abbastanza ovvio se lo guardi dal punto di vista finanziario, no? Tutti questi giochi che solitamente noi facciamo anche coincidere nella maggior parte dei casi, salvo eccezioni, anche con produzioni dal di medio grosso budget, no? Appunto per essere, affinché poi l'azienda ne guadagni, il publisher spinga per fare anche altri seguiti per guadagnare ancora di più, devono comunque essere portati a termine, indipendentemente dal fatto che sei una pippa oppure sei la persona con la coordinazione occhio-mano più brava di questo mondo, no? Per far ciò, allora, che cosa devo fare? Devono ricorrere per forza a una serie di espedienti e lo vediamo chiaramente oggi. Prendete un qualunque gioco uscito negli ultimi anni che non abbia come minimo la possibilità di cambiare anche al volo, cioè in progress, il livello di difficoltà. la possibilità in continua, ditemi ora quanti di dei giochi delle ultime generazioni hanno i continua limitati, oppure ti permettono di continuare ad libitum finché non ti sei rotto il cazzo, no? Ma più che continua, diciamo, non spengere. Ci sono più il numero di vite, no? Nel senso, sì, vabbè, cioè, una volta c'era il concetto di continua e di vite, ti ricordi? Cioè ogni tipo avevi, che so, due continua, e quando continuavi ti ridava altre tre vite. Non c'era manco il concetto, comunque era molto labile se c'era, di checkpoint, come avete detto pure, perché una volta, comunque, che so, prendete Ghost and Goblins, no? I checkpoint tra di loro erano molto molto lontani, o anche un semplice Super Mario, i primissimi Super Mario Bros avevano il checkpoint che era all'inizio del livello, anche quasi si era arrivato alla fine, dovevi ricominciare dall'inizio del livello. Non c'era manco il checkpoint intermedio, oppure i checkpoint di adesso, che sono praticamente prima e dopo la buca, per intenderci. Cioè la distanza tra di loro è brevissima. Pure il fatto dei salvataggi, ditemi una volta quanti giochi ti permettevano di salvare in qualunque momento. E tutto questo è a beneficio del sempre più crescente numero di persone che devono comunque comprare il gioco, lo devono portare a termine, che significa che almeno quelle 20 ore garantite ci devono giocare, e magari col fatto che si sono comunque sentiti in qualche maniera realizzati perché l'hanno terminato, sono anche propensi in seguito a comprarti DLC che sicuramente ti usciranno a distanza di mesi, se non addirittura al lancio, perché comunque ormai abbiamo pure una brutta politica da questo punto di vista. Propensi comunque a comprarsi un seguito perché sì, comunque quello l'ho finito, tutto sommato mi è piaciuto, so che ce l'ho fatta, quindi non vedo perché non dovrei farcela anche a portare a termine il prossimo capitolo. E tutto è a beneficio dell'industria. Guarda, io d'altronde, cioè, poi parlare dopo Giuseppe è difficile, perché il fatto è questo: il giocatore ormai sì, sta in rapporto 1-1, cioè coincide con il cliente, con il consumatore. Il consumatore ha pagato per quell'esperienza, allora gli devi comunque, almeno secondo la mentalità di oggi, garantire che un po' come quando ti vai a fare un giro, che so, in un'attrazione sotto la giostra, no? Ma certo, non si deve rompere la giostra, esatto. X giri te li devi comunque fare, che, cioè, devi essere passato X volte, no, dal punto in cui poi salivi e scendevi dalla giostra, no? A prescindere da tutto. E poi si ricollega anche al discorso del tutorial, perché una volta, cioè, non c'erano discorsi che ti con calma ti dicevano vai avanti, gira a destra, ora se premi questo fai questa mossa, poi poco più avanti per fare l'attacco stealth da dietro per mettere capo ai nemici, vacci adesso ora da dietro e premi quest'altro pulsante. No, non c'era assolutamente niente. Una volta o ste cose le leggevi dal manuale, oppure cavoli tuoi, andavi per sperimentazione. Ma sì, guarda, diciamo che oggi poi, tra l'altro, il videogioco è diventato più da sfida per fare il punteggio più alto, sfida, esatto, per farlo con meno vite, o che ne so, arrivare più avanti dalla speedrun. No, è diventato più, quella è un'altra cosa, magari un po' dopo. Beh, a parte delle sfide che è diventato più un intrattenimento. Di conseguenza, esatto, l'intrattenimento non deve essere frustrante, perché poi la gente già è frustrata, è triste, grigia, poi dopo si mette lì, giochi, e dopo 35 minuti muori 40 volte, esatto, ti spegni il gioco e arrivederci. Infatti, grazie. Ha già una vita reale di merda, perché rendergliela, complicargliela anche in quella virtuale, no? Ma guarda, allora, ma a parte che per noi è anche un po', cioè per me è anche un po' difficile in realtà affrontare un certo tipo di discorso come quello di prima, di che cos'è l'hardcore gamer, perché noi veniamo da una generazione che è diversa. Cioè io perlomeno a 43 anni quasi vengo da 43 anni già fatti, vengo da una generazione che è quella che io ho finito Pitfall 1 e Pitfall 2, ok? Quindi quando ero ragazzino io questi giochi li ho giocati e li ho finiti. Oggi non saprei dove mettere le mani probabilmente per finirli, e probabilmente la maggior parte di quelli che oggi ragazzini o ragazzetti di oggi si definiscono hardcore gamer, probabilmente troverebbero difficoltà, no, a giocare a quel tipo di videogiochi. Quindi è proprio, è cambiato tutto nell'insieme, è cambiato il tipo di videogioco, così come è cambiata la generazione ed è cambiata anche la gente che videogioca. Se da una parte si è allargato il pubblico perché la tecnologia non era più ad appannaggio di pochi che avevano magari la possibilità o che facevano il sacrificio per passione e se la permettevano, come negli anni 70 poteva succedere alla famiglia mia, a quella di Peppe o a quella di Marco o non so, a Carlo, insomma negli anni 70 ce l'aveva, ma oggi è appannaggio di tutti, perché insomma più o meno facendo un po' di sacrifici, se proprio è 400 euro e comprassi una PlayStation, non mangi per 10 giorni, me la fai. Ma io insomma vedo che queste console vendono in proporzione a un Atari 2600, vendono 50 volte di più, no? E quindi vuol dire che il bacino d'utenza, quella generazione che è diventata, che si è riprodotta, e quindi giustamente, esatto, e quindi di conseguenza il videogioco è diventato intrattenimento da quel punto di vista, è più riconosciuto e da una parte è anche giusto che sia così, certo. Cioè nel senso che un po' come le televisioni, una volta ce l'avevano una per il condominio, adesso invece ce l'hanno per casa. Ce l'hanno tutti, e quindi deve essere un po' alla portata di tutti come tipo di discorso, cioè io lo condivido come tipo di cosa. Però costerebbe 4.000 euro la PlayStation. Sì, esatto, e anche il videogioco costerebbe una marea. Almeno 700. Sul discorso del fatto che sono cambiati anche i videogiochi, Giuseppe prima faceva riferimento, cioè oggi ci sono tanti tutorial. Con chi è caduto? Giuseppe, chi è caduto? Adesso è in attesa, sta richiamando la... Ecco, pronto? Giuseppe. Ok, vabbè, continua. Sì, vai. Okay. Giuseppe prima diceva il videogioco è cambiato, indubbiamente è cambiato, ma non è cambiato solo nel fatto che oggi sono i tutorial che prima non c'erano, è che oggi sono meccaniche che sono più complesse per certi versi rispetto a prima, che la dinamica del videogioco comunque era più istintiva. In Pitfall dove si andava. Sì, ma secondo me appunto è anche cambiato, oltre alle meccaniche, è più cambiato la concezione del bacino di utenza a chi è rivolto il videogioco. Questo senza meno, infatti lo stavamo dicendo, però esatto. Poi voglio dire, nell'insieme, no, non possiamo, cioè forse da una parte penalizza magari chi vuole videogiocare determinate esperienze in maniera un po' più accurata, dall'altra invece in realtà comunque purtroppo è comprensibile per chi investe centinaia di milioni, no centinaia di milioni no, magari decine di milioni su un videogioco. È chiaro che insomma è inevitabile che ci sia un'esigenza, insomma. Tra l'altro, dovendo appunto far giocare più persone possibile, i giochi devono essere pensati non solo per essere giocati da ragazzetti di 16, 17, 20 anni, 25, ma da persone adulte di 30, 40, ma 50, anche da vecchi anni, esatto, ma anche no, no, 60, a parte gli scherzi, 70, no, come massa, adesso magari sono, sì, più mosche bianche, ma fa 10, cioè, 20 anni comincerà a diventare di più. Ovvio che prendete, se non li fai giocare a Pac-Man magari, sì, ti sclerano e muoiono lì sul posto, ma fisicamente proprio. L'esempio più lampante ce l'abbiamo davanti ed è uscito 5-6 anni fa. Prendete la Nintendo Wii. Il Wii era pensato per qualunque membro della famiglia, pure i vecchi ci potevano giocare, se vi ricordate quelle fantastiche pubblicità con Panariello, con tutti la gente anziana che giocava. Salutiamo tutti i vecchi su quello Nintendo ci ha fatto una vagonata, sì, anche di soldi. Se la Wii è un po' scombinato, insomma, diciamo. La Wii secondo me ha assodato, cioè ha dimostrato che effettivamente si poteva far soldi, e tanti soldi, vendendo diciamo un concetto per tutti, di gioco per tutti, per la famiglia in particolare. Bene, Carlo? Beh, guarda, la disamina di Giuseppe è accuratissima. Diciamo, ecco, io l'unica cosa che posso aggiungere è che comunque adesso il videogioco, come dicevi tu, insomma, non è più un fenomeno per pochi, ma vuole essere un fenomeno per tutti. È stato sdoganato all'inverosimile. Probabilmente lo sarà ancora di più nei prossimi anni. Vedremo un'emancipazione ancora maggiore del media. Questo purtroppo vorrà dire che comunque sia un'emancipazione del media equivale a dire, insomma, renderlo fruibile per tutti, per molti, per sempre molti di più, per cui questo, insomma, si tradurrà sicuramente in una, in un assottigliamento di quelle che sono magari le meccaniche di gioco. Abbiamo visto storicamente che comunque sia i sistemi di controllo molto complessi non pagano, e anche, insomma, chi ne ha usufruito, mi viene in mente, che ne so, ecco, appunto, un gioco come Splinter Cell, che è nato con un sistema di controllo improbabile, che ti prometteva di poter far tutto, no? Cose incredibili, mettersi a gamba aperte fra un muro e un altro, cioè erano tutta una serie di combinazioni improbabili di tasti, e poi è finito, capito, a marca al nemico e sparagli in testa, cioè siamo arrivati a questa cosa. Qui. Forse quello è l'esempio più lampante. Anche proprio il genere stesso. No? La parabola discendente è proprio l'esempio in realtà di quello cioè, nel senso, era nato con un gioco super cazzuto, super tecnico. Sì. Poi dopo, anche il genere stesso, se ci pensi, è stato comunque molto, molto. Ecco, forse fatta eccezione per l'ultimo Splinter Cell, poi avremo modo di parlarne più in dettaglio in futuro. E comunque sia, siamo partiti appunto da un genere stealth che, a mio dire, poi magari sicuramente la cosa è molto personale, era molto più tecnico, molto più complesso di un Metal Gear volendo, però siamo arrivati a quasi a un semi sparatutto in terza persona con dinamiche stealth, ma prima era, il gioco era ben altro, insomma, rispetto a quella che è stata alzandosi, cioè se perso anche nel mucchia, insomma, cioè poi, per cui io penso che forse, ecco, se ci togli le sue peculiarità, io penso che forse Splinter Cell proprio rappresenti anche un po' in qualche modo un tentativo proprio di venire incontro a quello che è tra virgolette, insomma, la massa insomma, in senso buono, di videogiocatori che devono giocare a quel gioco. È un gioco che ha mutato moltissimo la sua anima negli anni, nelle varie generazioni, e adesso pare che ha trovato un compromesso che sembra abbastanza giusto, però quello, secondo me, la dice lunga, insomma, su quello di cui stiamo parlando noi adesso. Bene, ma quindi praticamente secondo voi sono questi poi fondamentalmente i motivi o gli unici motivi per cui i giochi oggi li possono giocare scimmie ammaestrate perché in mezza giornata? Devono giocare le scimmie perché paghino, le possono giocare anche le scimmie. Per finirli, esatto, poi in mezza giornata, vedi, questo è poi. Però anche se il discorso della lunghezza, secondo me poi in realtà è un'arma a doppio taglio. Forse il caso appunto di The Order, di cui abbiamo parlato in particolare in varie puntate, probabilmente è un po' una miccia che rischia di esplodere un po' in mano, no? Perché sì, capisco il discorso della semplicità, dell'essere concentrato talmente tanto sulla tecnica, che chiaramente un gioco come quello, se fosse durato 15 ore, sarebbe costato, penso, un po'. Che ci mettevo dentro? Aspetta, no, ma anche tecnicamente, cioè, nel senso, i riflessi non ci li possiamo mettere. Che caso devono tagliare altre cose? Quindi, chissà, cioè. Ma poi sì, sono i giochi che diventano più facili. In realtà, sì, da un certo punto di vista, ma una volta i giochi si giocavano con una levetta e un pulsante, se ci pensate. Adesso invece c'è tutto quanto proprio un armamentario pieno di 12-13 pulsanti. Sì, sì, sì, questo è vero. Però la difficoltà è diventata un altro. Però non è più il gameplay, ma diciamo quasi la coordinazione, ma neanche tanto, il tempismo più che altro. Sì, ma noi questa percezione della transizione, del cambiamento, dell'aumento di idee, la percepiamo noi, non la percepisce il ragazzo o il ragazzino che ha iniziato con i joypad, capito? E quindi questo discorso lo possiamo fare noi, che lo possiamo fare in termini storici, andando a vedere quella che è stata la parabola del videogioco da inizio alla fine, dicendo sì, prima addirittura era una manopola. Da manopola sei andato al pulsante e il joystick, anzi prima al joystick, poi il pulsante e il joystick con due pulsanti, fino al joystick con 3-4 pulsanti, poi sei andato al joypad. Quindi cioè, l'evoluzione da quel punto di vista c'è stata, e ha permesso anche di far crescere le meccaniche nel gameplay, e questa è una cosa fantastica. Dall'altra, chiaramente, c'è, cioè, chi c'è nato è come quelli che vedo, abbiamo detto tante volte, le vedevo nel Vectrex, invece di prendere il joystick in mano ci passavano il dito sopra. Ma anche io passavo il dito sopra. Vabbè, andiamo avanti. Parliamo di qualche cosa invece che è rimasto, che ci fa ricordare le difficoltà, le frustrazioni, cioè la serie dei Souls, no? I titoli quelli più Souls-like, chiamiamoli stronzi? il tempo, il termine tecnico potrebbe no, essere no, anche, anche ha detto bene Simone, perché ormai di fatto ha aperto le, cioè si è creato un suo sottogenere che ormai è quello un po' come il roguelike, ora ci sono i souls-like che devono essere brutti ma frustrantissimi, cupi, punitivi al massimo e frustrantissimi. Beh, esatto. Come giocare roguelike in Asci più o meno, peggio. No vabbè, in realtà sono giochi meno concentrati dal punto di vista dell'aspetto tecnico, anche se vogliamo prendere poi l'esempio di Bloodborne, in realtà poi comunque c'è stato anche un po' un passo avanti da questo punto di vista, che somigliano a dei giochi di ruolo ma che in realtà sono tutti basati sulla ecco anche lì sul tempismo, sui riflessi, perché comunque sono giochi talmente punitivi da essere diventati oramai il simbolo dell'hardcore gamer per certi versi. Giochi, questo poi dopo passo la parola a Carlo e a Giuseppe e poi a Marco, che inizialmente ne parlavano veramente in pochissimi, c'è stato addirittura un periodo in cui forse se ne parlava poco, poi improvvisamente è esplosa la moda su YouTube, no? Dove fa vedere che sei bravo, non c'è uno YouTuber che non ha giocato a, che non si è fatto tutta la campagna Dark Souls 2, perché comunque devono far vedere che loro l'ha fatto uno, ha fatto quell'altro, perché inizialmente erano pure quasi ignorati, cioè si giochi, cioè, nel senso non so se sia così, però un po' di nicchia, diciamo un po' di nicchia, poi piano piano hanno cominciato a capire che erano abbastanza difficili da finire, hanno detto ma sai, io lo finisco col mignolo, io sono bravo, lo finisco con me, io lo finisco con l'unghia del piede, e quindi lì poi è cominciato ad andare sempre più avanti e alla fine insomma è diventato proprio quasi un culto per quelli che si definiscono pro gamers, no? Quelli che fanno i giochi veramente bendati, e quindi bravi loro. Quadro però sta è girata. Semplicemente questa girata di 180 gradi ovviamente. Bravi loro, io certo ci sto giocando al 2 di Dark Souls da mesi, poi mi sono fermato, ma poi Dark Souls 2 mi sono fermato, ma prima o poi lo continuerò, anche perché poi in realtà la tecnica, una volta capite le meccaniche, è vero che è punitivo, ma una volta capite le meccaniche riesci in qualche modo a limitare i danni, insomma. Sì, una volta che sai insomma anche le finestre di attacco dei pattern dei vari nemici, quali strade sono meglio da percorrere, no? Per spostarti da una stanza all'altra, allora sì. Cioè, una volta che hai diciamo somatizzato queste cose, che hai fatto tesoro della tua esperienza, allora diventa un po' più facile. Poi ovviamente diciamo che passare magari all'impatto di un gioco dove esatto, non si muore mai, è uno dove si muore sempre, però in realtà morire poi può darsi che perdi l'esperienza, ma potresti anche recuperarla teoricamente. Questo fa diciamo mette a disagio i giocatori normali, tra virgolette, quelli che sono nati negli anni 90, perché comunque vengono a trovarsi qualcosa che in realtà non avevano mai visto, perché fare i quattro passi, prendersi una sparata e morire, dove ricominciare, però guarda che lo è anche per cioè nel senso sicuro per quelli vecchi, perché poi ci si è persa un po' la mano parlando con Stefano, che è uno che gioca tutto e ha giocato tanto e tanti giochi, per esempio dice io a Bloodborne o a Dark Souls 2 per esempio non ci gioco, perché anche sti cazzi, cioè nel senso, ma perché mi devo, cioè pur essendo uno che gioca a giochi impegnativi e l'ho visto insomma che gioca a giochi impegnativi, cioè magari sbattersi dietro a Bloodborne non gli va, cioè nel senso ma che cazzo mo fa, no? Quindi deve essere proprio lo stimolo, l'interesse, la passione di giocare proprio quei giochi là, cioè di avere la sfida, quindi questo senso competitivo col videogioco che ti spinge, e con gli altri sì vabbè, poi dopo è diventato con gli altri, perché no, ma che poi secondo me, scusa, non è solo la questione dei titoli di From Software che avete citato, perché poi in realtà comunque di giochi difficili, specie appunto come questi realizzati da studi orientali giapponesi, ce ne sono. Esatto, vabbè, a parte quello, quello però fa cagare, scusa. Però è comunque difficile. prendete anche Carlo, che ha pure lui un background da boxaro, mi dovrebbe appoggiare, che so, il primo Ninja Gaiden per Xbox. Mortacci, cioè, anche quello era veramente sì. da impregazione molto oppure tutti i Danmaku, cioè i bullet hell shooter giapponesi, no? Quelle con piogge e piogge di proiettili, dove devi muovere in maniera, spostare in maniera millimetrica precisa l'astronave, altrimenti ti muori in maniera abbastanza facile, no? Quindi insomma ci sono sempre stati e secondo me la questione è che ora questi qua spiccano perché sono tra i pochissimi che tornano a riproporti un livello di sfida che diciamo, si avvicina a quello di un tempo. Detto, secondo me è una questione di percezione, solamente questo. Quando ovviamente le cose scarseggiano è ovvio che quelle poche che sono vengono elevate, no? Ma stanno facendo comunque, andando al lato monetario, stanno facendo vendite per le quali le software house potrebbero dire quasi quasi cominciamo a investirci seriamente o reinvestirci seriamente in questo tipo di gioco? Vabbè, la serie di From Software sì. Vabbè, gli altri sono più tipo questo appunto, i bullet hell shooter giapponesi sono più, rimangono sempre relegati a titoli di nicchia. Vabbè, ma sai che pure i Dark Souls poi hanno venduto decine di milioni, cioè nel senso comunque rimaniamo sempre su cifre, insomma, quanto hanno venduto nell'insieme, stavo a leggere qualcosa recentemente, però insomma tutti e due i titoli insieme con tutte le varie espansioni cazzi e mazzi non credo che abbiano superato i 3 milioni di copie, cioè nel senso, però posso dire una stupidaggine, mo non vorrei, però avevo letto qualcosa proprio recentemente che va bene, cioè nel senso rientra in un range di vendita che comunque permette di comunque ok ci sono rientrato, ho creato un genere e continuo su sta strada. Ne sono 3 milioni e mezzo, cioè, secondo me i giochi di David Cage hanno venduto di meno dal punto di vista, insomma, quindi Carlo invece di Carlo che non ha espresso la sua sta giocando a Demon's Souls, non so neanche se mi conviene sinceramente, perché mode, potrei indicarmi tipo l'internet totale proprio, mi rendo conto. Ma d'altronde dietrologia videoludica è il posto dove la gente parla, esatto. Francamente il nostro è molto nemici, molto guarda io ho raggiunto diciamo questa conclusione, allora secondo me il creatore di questo in particolare mi sembra Demon's Souls e anche questo Bloodborne, che si chiama Hidetaka Miyazaki, no? Sì. Nessuna parentela con quello dello studio, con l'ex studio Ghibli, scusatemi la trova. Però allora Miyazaki la mattina per andare al lavoro non si fa il grande raccordo anulare, e questo è un fatto, no? Lo sappiamo questa cosa per forza, perché vive in Giappone, quindi non si fa il grande raccordo anulare. Prende il treno sospeso, lui dorme. Grande raccordo anulare. E quindi vuol dire che come me non deve augurare, diciamo, la morte a una media di 5-7 persone al giorno. Per cui io quando torno a casa e mi metto sul divano, così dove a giocare. La voglia Bloodborne. Sì, mi devo pure bestemmiare la morte, capito, quando videogioco. Facciamo un bel gioco, grabbo. Questa cosa non va bene. Gente che sta in macchina e si uccide a vicenda. Questa cosa non va assolutamente bene. Per quanto mi riguarda, io mi considero. Allora, sì. Consideratemi quello che non capisce l'arte, consideratemi quello che vuole la pappa pronta, come tante volte mi hanno apostrofato su un mondo Xbox, sulle recensioni, quando per carità accenno che un gioco è poco frustrante, poco ma ok, va bene, siete liberissimi di considerarmi così, io assolutamente lo sono, perfetto, non ho nessun problema. Sei un pappa e molle. Però secondo me due sono le cose, a questo punto sono un bivio. A me dà fastidio innanzitutto una cosa: quando leggo sui forum, quando sento sui podcast che la morte in Dark Souls è metafisica e tu non capisci il concetto che la morte ti dà la vita, quindi non puoi capire la vita se non c'è la morte, no? Tutte ste pippe mentali, scusatemi ragazzi, cioè, però è un fatto, cioè, è una pippa mentale la vostra. Io non è che dico che il gioco ti deve lasciar vincere perché bravo, hai vinto, te fa l'applausino, però sinceramente tutta questa frustrazione attenzione è veramente necessaria per giocare, e poi soprattutto perché io, che insomma non amo questo genere, mi devo sentire coglione, capito, davanti agli occhi di magari qualcuno che invece gioca a questo genere e comunque riesce, ci riesce bene, insomma, e che non capisco, capito, le cose secondo loro, insomma, secondo queste persone qui. Non apprezzo, capito, questa cosa. Non lo so, cioè, mi sembra che attorno a questi titoli si è creata una sorta di, Carlo, sottocultura, di filosofia un poco chiara, sinceramente, per cui un po' tra, un po' come i vegani e i carnivori, no? Sai che c'è l'eterna lotta adesso sui social, no? Tra, per cui è così, secondo me, cioè tra i videogiocatori adesso si è creata sta scissione, capito, a chi gioca ai Souls e a chi no. Sì, è uno dei motivi per cui io sono uscito da tanti gruppi. Tu gli devi dire una cosa a sta gente. Quando tu vedi sta gente che te dice, perché tu gli dici: senti, ma tu hai giocato a Assassin's Creed Unity al day one senza patch? Esatto, quello pure era. Quella è la difficoltà. Sì, stai zitto, così, e poi basta. E quindi chiudi io, il discorso. A me basta dire che io ho finito Pitfall, sto a posto. Quindi qui, diciamo, chiudo questa cosa. Mi sento la persona più impopolare dell'internet, ma va bene. No, vabbè, no, no, abbiamo detto cose molto più impopolari, Carlo, vai tranquillo. Ma comunque hai detto una cosa, hai puntualizzato, hai focalizzato il tuo discorso su una cosa specifica che in realtà ce l'avevo già in mente da un po' di tempo, di cercare di fare una puntata. Però per fare una puntata, che è la puntata che vorrei fare proprio sul tuo spunto, in realtà avrei bisogno di riuscire a vedere se riesco a portare un ospite in trasmissione, perché si fa tra i tantissimi canali YouTube ci sono alcuni che sono più interessanti degli altri, nel senso che magari ti danno comunque cercano di dare un apporto culturale rispetto al videogioco, andando a spiegare motivazioni, metafore, rimandi e vai via dicendo all'interno del videogioco stesso, che la stragrande maggioranza sono molto interessanti. Si rischia però in questo voler fare dell'intellettualismo a tutti i costi sul videogioco di eccedere, nel senso che comunque me l'ha fatto vedere Marco, non so adesso come si chiama il tizio che ha fatto l'anima dei Dormin. Esatto, l'anima dei Dormin, che Michael ha fatto of the Desert, una cosa del genere. Sì, vabbè, comunque no, lui c'ha proprio un nome tipo giapponese, Sabaku no Mike. Bravo, esatto, che lui ha fatto praticamente tutta la spiegazione di The Shadow of the Colossus, che se tu la concentravi in 40 minuti non avevi levato niente alla bellissima spiegazione che lui ha fatto. Invece se tu fai 10 episodi, 12 episodi per ogni colosso, e 16 episodi per ogni colosso, e la metà dell'episodio stesso è un rimando del rimando a quello che poi spiegherai dopo, perché ti rimando, che ti rimando, e vedete qua e là, vedete là. È bello perché a me mi ha permesso di seguire e di esplorare cose, però secondo me poi certe volte non è poi così compatibile con un certo tipo di spiegazione il mezzo. Perché lui ha fatto anche un gameplay, in realtà ha fatto un mix, per cui esatto, si era presa comoda proprio, esatto, questo. Però secondo me non è il solo, perché adesso c'è anche un altro ragazzo che sta a fare la stessa cosa con Silent Hill. Forse ha meno carisma, molto meno interessante, però poi alla fine si tende a essere ripetitivi, a ridire sempre un po' le stesse cose, a prendere spunti l'uno dall'altro, robe del genere. Ed è stata una cosa, la folgorazione, quella proprio di Dark Souls, perché ecco, se si va dalla spiegazione più metafisica a quella più esoterica, a quella più artistica, a quella anche più tecnica letteraria, no? Quindi è anche affascinante, però insomma non lo so, sarebbe da parlarne questa cosa, perché giustamente Carlo prima dice no, perché nella morte di Dark Souls, no, cioè si vede tutti aspetti quasi antropologici, no, che in realtà non tutti hanno l'opportunità di coglierli, o non tutti li colgono, o magari non ci sono neanche da cogliere, no, voglio dire, nel senso, non è detto, perché poi sai, tante volte anche un po' il videogioco, come tante opere d'arte, è suggestione, no, quindi è quello che tu interpreti, o quello che tu, poi se tu hai studiato approfonditamente l'opera e sai quello che l'opera ti vuole trasmettere. Però insomma, secondo me a qualche volta un po' si eccede queste cose. Non so, Carlo, se sei d'accordo. Sì, io penso in particolare su Dark Souls. Abbiamo letto, e ascoltato di tutto. Io, per carità, poi rispetto l'opinione di tutti, però secondo me forse si eccede un pochettino tanto. Ma mi auguro che anche le stesse persone che ne scrivono e ne parlano così animatamente lo capiscano da loro, insomma. Poi che vuoi che ti dica, insomma. Io sono più per la parrocchia, appunto, di cui abbiamo parlato fino adesso. Io mi ritrovo benissimo nelle difficoltà attuali dei videogiochi, che saranno pure un po' da pippa se prendiamo in esame magari da dove siamo partiti. Però va benissimo così, insomma. Non ho bisogno di morire 79 volte al minuto per apprezzare il gioco che mi sta davanti. Anzi, è proprio il momento in cui lo mando a fanculo e passo a un'altra cosa. Anche perché, diciamo, ce l'ho, io c'ho poco tempo per giocare, non è che posso stare a perderlo così, assolutamente no, cioè, nel senso che se facessi 300.000 visualizzazioni su YouTube mi desse 2.000 euro al mese, lo farei, giocherei anche 10 ore, 12 ore al giorno probabilmente. Ma non è così, perché poi soprattutto quando cresci ci sono delle responsabilità che fanno parte della vita di tutti i giorni. Anche semplicemente alzarsi e andare a lavorare, sembra una stronzata, però non è detto che la sera, quando torni a casa, sei così fresco da mettere. Io ultimamente faccio fatica, mi piacerebbe accendere la PlayStation. Matteo mi dice: facciamoci una partita a PES. Cioè, a volte manco me va. Tu dici: poi, ma che... quanto sei casual? Sei casual, io gioco a Neverwinter. A parte che sì, comunque l'idea, tornando anche a quel punto che ti dicevo, a uno dei primissimi punti che ti dicevo prima, è anche questa. Devono essere anche pensati proprio per questo bacino d'utenza che può giocare solo quando torna a casa la sera, che è stanco dopo un'intensa giornata di lavoro, e giustamente che fa? Gli complichi ancora di più la vita. Io devi permettere anche a queste persone di poter fruire del prodotto che hanno acquistato. Vabbè, basta, io direi che a questo punto possiamo anche salutarci, ma no, sono una battuta. Quindi praticamente abbiamo visto che il gioco sta cambiando fondamentalmente, stanno cambiando i giocatori, stanno cambiando anche i videogiochi. È già cambiato, è un qualcosa sempre in divenire. Sì, stanno ancora cambiando. Possiamo dire che la vendita di massa, quindi la ricerca comunque del profitto, sta uccidendo il videogioco classico inteso come sfida, oppure si sta quindi evolvendo verso qualcos'altro? E se cosa ci dobbiamo aspettare? Purtroppo sempre per tornare a un grandissimo capo espiatorio, che è Simone Pizzi, se giocate a Candy Crush eccetera, è anche colpa di questa massificazione del videogioco, perché il fatto di permettere a chiunque di andare avanti eccetera e generare al contempo profitto è quello che ha portato anche a tutti sti giochi per Facebook, per smartphone, che hanno la modalità del free to play, no? Del fatto che tu non ti vuoi sbattere più di tanto, allora basta che paghi e ti diamo tutto, ti diamo la pappa pronta, no? Io farei notare che gli unici due che hanno fatto delle recensioni di free to play di quelle sono Biggio e Saso. Poi lo dico pure io, perché comunque ci sto ancora giocando. Ti riferisci a poco, no, ma comunque è la verità. A parte gli scherzi, se noti perché sono nate queste tipologie di gioco, sono nate con lo scopo di fare giocare anche chi è che normalmente non avrebbe voluto tenere in mano un joystick, perché lo reputava comunque troppo difficile o non riusciva a superare manco il primo livello di Super Mario saltando e moriva alla prima buca, proprio perché diciamo dovevano cercare di spremere i portafogli anche di queste persone. E allora qual è stata l'unica maniera? Fornigli un sistema di controllo a cui sono normalmente avvezzi, tipo quella del cellulare o del browser per computer, e al tempo stesso, siccome fare leva sul loro senso di realizzazione, perché guarda, ce la puoi fare anche tu, basta che ti compri altri diamanti, altre rape, altre sementi, quello che vuoi, Sborsico, ci dai il codice della tua carta di credito, la transazione è fatta e tu puoi andare avanti. Anche qui però si fa uso dell'invidia del pene, vedi il tuo amico che ha appena fatto 500.000 mucche, è meglio di te, fagli vedere che tu puoi fare di meglio, comprati questi diamanti, lì è anche è più mercificata, è lì proprio infame però, cioè. Carlo cosa dice di questo? Sta giocando a Candy Crush in questo momento. Quello lo fa pizzi normalmente, però vabbè. Infatti adesso assolutamente accendi il tuo cellulare. Accendo il cellulare. Ma non so cos'altro aggiungere, sinceramente non sono grandissimo fan di questo tipo di cose, però insomma anche questo, come diceva Giuseppe, fa parte del... Vabbè, però non è... Allora, però posso dire una cosa, no? Perché la rientroduco forse meglio. Il fatto che il videogioco sta cambiando, l'abbiamo detto in tantissimi episodi, è assodato. Il fatto che il videogioco sta diventando una cosa X, no, però, cioè nel senso che comunque il videogioco sta diventando tante cose, quindi si stanno aprendo una marea di sfaccettature, come abbiamo detto tante volte, dal gioco narrativo al gioco casual, sì, io diciamo all'indie game, che in realtà invece riammicca diciamo al gioco forse più hardcore, no? Tradizionale. Io in maniera provocatoria sono voluto andare a prendere diciamo proprio le brutture, le peggio cose per fare vedere fino a che punto estremizzando siamo arrivati. Certo, però io volevo puntualizzare per Carlo, perché non è che dobbiamo focalizzarci su quello, nel senso Giuseppe ha posto l'attenzione su un aspetto, noi possiamo porre l'aspetto su, che ne so, ecco, per esempio il gioco narrativo, il gioco indie o il gioco artistico, oppure il gioco d'esperienza, perché oggi poi ci stanno pure tutta questa nuova categoria che non so neanche più avventure grafiche, che so il gioco d'esplorazione, no, d'esperienza, oppure c'è quel gioco fantastico che c'era sempre su Steam, che era tutto basato sulla luce, sempre in soggettiva prima persona, che adesso non ricordo come si chiama, ma Gianluca Santilli ne ha parlato diverse volte, che era interessante perché tu ovviamente per affrontare e proseguire nell'esplorazione dovevi comunque tener conto della luce, di come si muoveva la luce all'interno dell'ambiente. Quindi, cioè, nel senso, il videogioco oggi ha l'opportunità di diventare milioni di cose, per diventare per milioni di pubblici, di pubblici diversi, chiaramente, perché il pubblico sta cambiando, il pubblico si sta diversificando e si sta moltiplicando, e questo è l'unico aspetto veramente prettamente positivo. C'è una grande parte che è quella della massa, che chiaramente tende all'intrattenimento più easy, ma questo succede pure nel cinema, quindi non c'è motivo perché non debba succedere nel videogioco. E poi c'è tutta un'altra serie di sottocategorie che stanno nascendo che sono interessanti, no? Ultimamente io sto vedendo tante cose, addirittura riproposizione dei vecchi concetti su tecnologie moderne, e quindi fare oggi quello che prima non era possibile, pur sognando di farlo, come Elite, Dangerous, Star Citizen e cazzi e mazzi, che probabilmente insomma non sarebbero sai, quelli di Star Citizen hanno costruito una stazione spaziale vera, però cioè, i soldi che hanno fatto emigrano fuori. Ma quello, che il fenomeno di Star Citizen è interessante perché ti fa vedere come tra tutte queste diatribe tra generi videoludici veramente c'era un genere che mancava, cioè, e che è mancato per tanto tempo, che è quello dell'esplorazione e della simulazione spaziale. Che probabilmente era veramente tanto tempo che mancava, e che la gente era talmente affascinata dal fatto che oggi si potesse fare come si sarebbe voluto fare allora, che ci hanno creduto in questo progetto sta diventando veramente qualcosa di monumentale, chiaramente, perché insomma oramai le aspettative sono ampie, non possono, però ecco, il gioco si sta trasformando sì in reiterazioni di se stesso in varie forme a seconda delle esigenze del mercato e dell'interesse dei vari spicchi di pubblico che si stanno avvicinando al medium. Quindi insomma, io vedo una positività in questo. Poi è chiaro che purtroppo in tutta sta storia quelli che un po' ci rimettono sono quelli che in realtà avrebbero voluto più Super Mario Bros che The Order, insomma, cioè questo, però per fortuna si estingueranno, morire. No, vabbè. No, comunque a questo punto, siccome mi sento chiamato in causa perché voglio fare il paladino di Nintendo, Comunque anche Nintendo negli anni, seppure ha cercato in qualche maniera di evolversi, no? E tant'è che infatti negli ultimi Super Mario, comunque, dopo che muori X volte, ti spunta il famoso blocco verde che ti dice: vuoi che te lo supero io il livello? E praticamente, se gli dici di sì, il gioco prende il controllo del tuo personaggio e ti fa vedere proprio come superare il quadro. Che è un po' triste, diciamo. E te lo supera, sì. Comunque, tornando al discorso, se ti risponde: no, non te lo faccio, mi dispiace, devi soffrire. No. Immagini, vuoi che te lo supero io? Sì. No. No, comunque dicevo, tornando al discorso di evoluzione, sì, indubbiamente sì, il videogioco si evolverà in qualcos'altro man mano che vivremo il fenomeno videoludico. Adesso, tra l'altro, siamo, se ci pensate, anche un po' alla finestra. Cos'è, no? Questa musica? Del come dire, l'impatto che avranno, se ce l'avranno, non è detto, questi famosi visori 3D, realtà virtuale, cacchi e mazzi, no? Che ormai... non lo so, quello ovviamente non tutti si aspettano, capito, il Call of Duty con il visore 3D, non credo, io personalmente non penso, credo che comunque saranno periferiche destinate a quello che è magari più un'esperienza, diciamo, di ludica, però molto semplificata, ma niente di simile a quello che stiamo facendo adesso noi con i videogiochi che conosciamo bene adesso. Bisogna capire un po' come che collocazione avranno nel mercato, quanti ci crederanno. Vedo un po' di vedo sviluppatori comunque molto resti comunque a mandarlo sul mercato, perché probabilmente sanno che adesso non avrebbero minimamente, non catturerebbero l'interesse di nessuno se non dei super mega nerd. Bisogna capire chi coglierà la palla da balzo e lo farà diventare magari un oggetto fighi strafico, no? Chi lo sa, questo come tante altre cose alla fine. Basta che puoi usare puoi vedere porno con questi visori, sì. che te lo sdogano a chiunque. Quello ovviamente. Beh sì, il POV regna sempre sovrano. Vabbè, in realtà c'è stata una puntata di DVL dove abbiamo parlato lungamente, anche c'era sicuramente Giuseppe, se lo ricorda, abbiamo parlato dei vari dispositivi con i quali che sono cambiati, dei nuovi dispositivi, di quanto poi questi dispositivi avrebbero veramente o avranno veramente un impatto nel futuro. Io continuo a sostenere che il 3D, così come la realtà virtuale, per quanto affascinanti, secondo anche un po' l'idea di Luigi Marrone, no? che vede nel videogioco anche un'astrazione, un'immedesimazione, continua a considerare questi ausili degli artifici, anche dal punto di vista sensoriale, e quindi comunque non so quanto realmente una gran massa di gente possa sopportarli. In realtà invece sono abbastanza convinto che quello che la gente può sopportare è questo qui. Lo sentite? Candy Crush. Ecco, questo è il gioco del futuro. È il nostro. È infatti, ciò che ci aspetta. Perché ricordiamo che noi abbiamo un nuovo sponsor occulto che è King, no? Esatto. No, più Mass Effect. In realtà, ormai non. Dando una mano a mio padre in questi giorni, che è anziano, roba del genere, mi sono detto: vabbè, ma io quando c'ho l'ora da su, a che giocherò? E prima o poi Candy Crush. Si può testare al futuro Candy Crush in 3D. Voi sapete che ogni volta che Simone Pizzi completa un livello di Candy Crush, un giovane programmatore indie muore. Quindi, quanti ne hai sulla coscienza? Centinaia. Centinaia. Vabbè, Carlo, stavi dicendo. No, ho finito in realtà. Io ripeto sempre quello che ho già detto in passato, insomma, in altre puntate. Secondo me gli indie in questo senso sono un po' un cavallo in cui si può, secondo me, scommettere per il futuro. Chi lo sa, insomma, l'ascesa che hanno avuto gli indie in questi ultimi anni è impressionante. Non tutti se la sono meritata, sicuramente, però altri. Anche se devo dire una cosa che mi ha un po' rattristato, il fatto che se dagli indie in realtà ti aspetti idee nuove, in realtà vedere che commettono gli stessi errori del mercato del mercato, diciamo, di massa, mainstream, è un po' meretrista, perché, cioè, anche lì c'è il genio che si inventa il gioco e a quel punto si crea il genio e tutti a fare i giochi uguali. Mo adesso è nata sta cosa del cacca simulator, cioè, nel senso che ha fatto ridere il primo gioco, che era una merda e non si meritava tutti i soldi che ha fatto perché era una merda, però faceva ridere. Allora a quel punto tutti quanti a fare stronzate. Mo l'ultimo che mi è passato da aver visto era quello del gatto, che tu devi salire sulle mensole e qua zampa di buttare roba per terra, più roba butti per terra e più vinci il livello, cioè, capito? No, non ci siamo. Se questa è la direzione, l'abbiamo presa brutta. Cioè, capito? Insomma, quelle sono cose che poi andranno a morire da sole, comunque, secondo me. Quindi è solo questione di tempo. Io non so dove finiremo. Sicuramente ci sarà sempre più massificazione e semplificazione del gioco. Però, visto che secondo me alla fine c'è spazio per tutti, probabilmente tutte le software house che comunque vorranno puntare giochi di massa, si potrebbero anche ritagliare un pezzetto per l'indie, un pezzetto per il gioco un po' più complicato, per la simulazione, e via discorrendo. È ovvio che tutto lo farà a richiesta, quindi secondo le quante domande ci sarà in futuro e di che tipo di domanda ci sarà uno sviluppo del gioco, però non si tornerà indietro, quindi si potrà soltanto andare avanti. Quindi chissà. Chissà quanti livelli farà Pizzi Candy Crush, quanti programmatori ucciderà. Quindi insomma è solo una via in discesa verso il baratro. C'è e il basta. Baratro, esatto, c'è il baratro, però potrebbe. Ed è colpa mia, ricordate, colpa di Pizzi. Il senso della puntata è che è colpa mia. È colpa tua, incrocia quello che c'è sta palletta alla guardia, quindi fa tutta la riga. Comunque, in ogni caso, sì, ovviamente poi è il mercato che deciderà, quindi se il mercato vorrà giochi di cacca con grandi effetti, grandi sfarzo, però con poco gameplay o comunque con un gameplay scarso e con durata molto, molto breve, ci beccheremo quello. Però ripeto, poi la parte, siccome che il mercato è ampio e tutto sommato anche chi cerca un determinato tipo di gioco aumenterà nel tempo, secondo me ci saranno anche chi eppure ti dirò che la gente come me, Giuseppe, in questo momento c'ha una sorta di boccata d'aria fresca, perché pur rivedendo cose già viste, già il fatto che c'è gente che si è rimessa a fare i giochi del ruolo come se facevano 15 anni fa, dicevo, vabbè, ma è roba vecchia, sti cazzi, cioè almeno certo. Sono giochi, cioè, nel senso, esatto, sono giochi, non sono film. E comunque ricordiamo che comunque gli indie ci salveranno, tant'è che infatti tra qualche mese, quando anche Kojima tornerà a fare l'indie, vediamo con che fantastiche idee di gioco se ne verrà fuori. Secondo no? me farà scatola simulator, speriamo farà fine dei Cage, scatolone simulator stealth. Speriamo non faccia la fine dei Molino. No. La tendenza la fine sarà, di Molligo. Molligo. La fine, cioè la cosa un po', la tendenza ce l'ha, diciamo, con la mania un po' ce l'ha, però perlomeno lui, anche se ci mette 20 anni di più, le cose le finisce, o gliele fanno finire, diciamo, a un certo punto dice, dai, ora è finito. Ma soprattutto a differenza di voi, non spara cazzate facendo promesse inutili. Beh, perché questo vedremo, insomma, vedremo la chi Molino o Kojima? Kojima. Cioè, finora no. Kojima. Hideo Kojima. Vabbè, Marco. A questo punto io direi che possiamo anche andarci. No, diciamo una cosa. Se facciamo un giro d'opinione finale, se c'è qualcosa che ci è rimasto in mente che magari non abbiamo detto, partendo da Giuseppe, poi da Carlo e poi Marco. Ma guarda, ti ho detto, per me è, diciamo, io non mi pongo più il problema che se sono un hardcore gamer eccetera, o se il gioco è troppo difficile o troppo facile, anzi, fin tanto che c'è la possibilità che posso arrivare fino a, cioè, una volta che l'ho comprato posso arrivare fino in fondo, me lo posso godere senza che insomma mi scoppi la vena in testa, per me va benissimo. Quindi poi il fatto che voglio o meno giocare a un free to play piuttosto che all'ultimo Call of Duty, insomma, questo è alla fine è solo una mia scelta, non deve influire per forza tutto il resto tutti gli altri videogiocatori, ecco. Giusto, interessante. Carlo? Io dico semplicemente, ribadisco il concetto di prima, giocate ragazzi, lasciamo i trattati di filosofia ai filosofi. E... più manualità, meno, esatto, seghe mentali, no? Per cui, che pare in controsenso in realtà. Più saghe, sì, meno seghe, esatto. Per cui niente, insomma, dai, cioè, giochiamo, altrimenti non si chiamavano videogiochi, si chiamavano qualcos'altro, esatto. Quindi ognuno liberissimo di pensarla come vuole, per carità, però insomma, dai, giochiamo, dai, giocate. Io invece giocate, che cosa giocate. Dire? giocare assolutamente. Io spero che non si finisca in un genere che non sarà più il videogames, ma sarà qualche altra cosa, tipo video intrattenimento interattivo, che lì magari potrebbe essere veramente triste. Soprattutto spero che non si arrivi solo a fare il video poker. No, video porker. Tutto sommato sono fiducioso, perché alla fine i giochi, anche se sono tra virgolette semplici, alla fine ce li giochiamo lo stesso, non è che ci fanno schifo. Poi le cose, sì, belle si trovano comunque, sia se sono facili sia se sono difficili. Sì, quindi l'esperienza ne valsa la pena, no? Esatto, che può dire, tipo The Order ne valsa la pena, no? Però The Last of Us, che comunque è un gioco che, se tu ci rifletti rispetto ad altri giochi, ha una delle dinamiche semplificate, perché comunque prendeva un po' tutto da tutti. Vabbè, ma anche The Last of Us aveva, diciamo, tutta una serie di semplificazioni affinché lo potesse portare a termine, sì, chiunque, sì, perché c'aveva i checkpoint ogni piezo spinto, c'aveva, ti ricordi, le varie modalità di livelli di difficoltà, dove potevi magari trovare più munizioni o meno munizioni, o non usare a quello più alto, se ricordo bene, la modalità quell'ascolto per capire la posizione dei clicker, no? Sì, che poi era proprio la cosa dell'ascolto, era forse quella ancora più indicativa, no? Nel senso, te era spacciata come come grande trovata dei gameplay, in realtà era un espediente per dare comunque una mano un po' al giocatore, sì. Quindi però The Last of Us è stata un'esperienza che ne valsa la pena, quindi e probabilmente sono fiducioso su The Order il secondo, per esempio. Sono abbastanza convinto che se si farà. Ma secondo me si farà, perché oramai ci hanno investito su questa questione. In realtà, voglio dire, un errore, cioè cadere capita a tutti, cioè non è quello il discorso, è che comunque secondo me, se non è pari da quello che hai tirato fuori, è chiaro che insomma dopo allora se diventi un pazzo scatenato, insomma. Vedremo. Chi compra un The Order 2? Che cosa si aspetta? Più film? Io intanto mo voglio sapere come va a finire. Così, finisce così. No, finisce così lì. Poi dopo, sto Cristo che fine fa? Potrebbe essere. Cioè, rimane tutto aperto, chiaramente. Rimane, no? Chiuso lì. Chiudono dentro, mi piace. Ma speriamo solo che non lo snaturino. Ma poi Tesla è morto o no? Tesla è morto? No, non muore. No, non so. Speriamo che non lo snaturino. Vabbè, però, ragazzi. Che se no vabbè, ma vabbè, dai, non ne prego. Allora, dato che abbiamo parlato di Splinter Cell, cari amici, puoi anche silenziarlo comunque il telefono, insomma, se proprio ne vuoi. Dici, vabbè, non lo faccio, ne. Vabbè. E, dicevo, dato che abbiamo parlato anche di Splinter Cell, poi dopo diciamo delle cose, magari chi vuole può fare anche un commento. Allora, c'è l'ennesima grande puntata di Passione Sound Design, ed è proprio di quello che andiamo a parlare, ce lo ascoltiamo subito. Amici di dietrologia videoludica e spettatori di serie TV in lingua originale, bentornati alla mia rubrica Passione Sound Design. Ormai lo sapete, sono sempre il vostro sound designer Carlo Burigana, e preparate le valigie perché si parte per un viaggio. oggi ci aspetta una missione segretissima atta a sgominare la minaccia terroristica e salvare il mondo. Seguitemi quindi in un'analisi del comparto sonoro di Splinter Cell. Il primo capitolo della serie Splinter Cell viene alla luce nel lontano 2002, ad opera del prolifico team francese Ubisoft, che ha sedi di sviluppo in diverse parti del mondo. Oltre alla celebre serie Splinter Cell, Ubisoft è famosa per aver partorito delle vere e proprie icone videoludiche, come Rayman, Prince of Persia e Assassin's Creed. Non sai in che cosa ti mischi, assassino. Splinter Cell ci mette ai comandi di Sam Fisher, ex Navy SEAL. È a terra. Che viene ingaggiato da Third Echelon, una branca dell'NSA, il cui compito è portare a termine missioni di infiltrazione per il recupero di informazioni o l'eliminazione di obiettivi. Nemici abbattuti. Puoi avanzare, Sam. L'addestramento militare di Fisher e la sua grande abilità tattica sul campo lo rendono un agente perfetto per portare a termine questo tipo di incarichi. Complice la tecnologia messa a disposizione da Third Echelon. Infatti, tra i vari gadget in dotazione, Sam avrà il suo inseparabile visore notturno, diventato fin dal primo capitolo l'emblema della serie. Fin dal 2002 Splinter Cell ha portato aria nuova nel panorama videoludico, introducendo degli asset interessanti come l'illuminazione dinamica e un feeling di gioco molto diverso e più tattico di quello introdotto dalla serie Metal Gear Solid, che fino a quel momento era l'unico valido baluardo del genere stealth sul mercato. Ottimo lavoro, Fisher. Come va, Grim? Ci sto lavorando. La vera innovazione arriva nel 2005 con il terzo capitolo di Splinter Cell, Chaos Theory, che impreziosisce la serie di un impressionante motore grafico e di nuove interessanti dinamiche di gameplay. Le cose cominciano a cambiare l'anno successivo, con il quarto capitolo, Double Agent, che nel 2006 inaugura la nuova ammiraglia Microsoft, l'Xbox 360, poco dopo la sua uscita sul mercato. Double Agent però taglia i ponti con gli stilemi tipici della serie, facendoci impersonare un Sam Fisher tormentato sotto copertura e braccato dai suoi stessi compagni dell'NSA. Dopo uno stop durato 4 anni, Ubisoft tenta di ristrutturare Splinter Cell, cercando quasi goffamente una strada da far percorrere alla serie, ideando uno stile di gioco molto più veloce e votato all'azione in Splinter Cell Conviction, forse il capitolo più debole di tutta la serie, fino a trovare un giusto compromesso in Splinter Cell Blacklist, che nel 2013 ha suggellato in grande stile il canto del cigno della generazione Xbox 360 e PlayStation 3. Allora, per chi lavori, dimmi? CIA? Voglio una scansione della retina. Nella versione originale, Sam Fisher viene doppiato dal famoso attore Michael Ironside, già visto recitare in film cult come Top Gun e Atto di Forza. Fresh ground or dried? What? The coffee machine, ground or dried? I'm not sure. You better tell me something useful and fast. Con la sua voce oscura e pacata, a mio parere, riesce a rendere Fisher un protagonista unico nel suo genere. Is New York City thinking about hiring displays to protect Manhattan? Il passaggio di testimone subito dalla serie, però, ha introdotto un cast di doppiaggio tutto nuovo nell'ultimo capitolo. Infatti, in Blacklist, ad interpretare Sam Fisher, troviamo il più giovane Eric Johnson, conosciuto per aver preso parte a film e serie TV di successo, come Vento di Passioni e ER. Briggs. You settled in yet? CIA is too big to move fast. Operation like this has got to be agile if it's gonna work. You'll adjust. Sul comprimario Irving Lambert troviamo invece l'attore Don Jordan, già al lavoro da anni sulla scena videoludica e attore di ruoli minori di cinema e TV. Fisher, the sun's down. Time to go to work. Finding Agent Blaustein's our first priority. Nel ruolo di Anna Grimsdottir c'è l'attrice doppiatrice italo-americana Claudia Besso, veterana della scena videoludica. Good work, Sam. That's the first of their servers. If you can upload that to each of the other ones, I'll be able to snoop around as much as I please. Fino alla sua sostituzione nel 2013 con Kate Drummond. Loaded with custom modifications. Armory, infirmary, holding cell. La versione italiana della serie Splinter Cell è stata realizzata da varie società di doppiaggio. Il primo capitolo è ad opera di Local Transit in Roma, mentre i successivi quattro sono stati lavorati da Orange Studio a Bologna. L'ultimo capitolo invece è stato localizzato da Synthesis International a Milano. Pietà, mi spiace. Voglio solo andare a casa. Io voglio che tu vada a casa. Nel ruolo di Sam Fisher troviamo una vera superstar del doppiaggio italiano. Al mio segnale, scatenate l'inferno. Eh sì, parlo proprio dell'inconfondibile Luca Ward, che interpreta il protagonista in modo incredibile e soprattutto... Davvero? Comunque mi sembri più interessata al lavoro sul campo ultimamente. Vorrei ricordarti che sono fuori dal gioco. Ah, giusto. Perlomeno fino al terzo capitolo della serie, dopo il quale viene sostituito da Dario Oppido, scelta che all'inizio ha scatenato non pochi trambusti tra i fan italiani. È il diritto di difendere le nostre leggi. Di fare qualsiasi cosa per proteggere il nostro paese. Io sono Sam Fisher. Sono una cellula fantasma. Ma fortunatamente nel 2013 Luca Ward fa il suo ritorno in grande stile in Splinter Cell Blacklist. Ostenta sicurezza, ci sta sfidando. Ma ora abbiamo un bersaglio. Sul primo capitolo Irving Lambert viene doppiato dal grande Girolamo Alchieri. Fisher, ho una bella notizia per te. Dovrai fare un po' di pulizia prima che l'Osprey possa atterrare per prelevarti in tutta sicurezza. Mentre sui successivi viene sostituito da Riccardo Rovatti, ormai una vecchia conoscenza del doppiaggio italiano di videogames e cartoni animati. Fisher, hanno installato un nuovo sistema di allarme centralizzato. Tieni la situazione sotto controllo. Sul personaggio di Anna Grimsdottir troviamo nel primo capitolo la bravissima Alessandra Cassioli. Merda! Mi hanno beccato. Hanno arrestato il sistema. Mentre sui successivi c'è Mara Vapori. I sensori della tua tuta rilevano un bel po' di fumi da quelle parti. Sostituita in Splinter Cell Conviction da Anna Giulia Belletti. Piantala, ho bisogno di te. Se io facessi qualcosa, la mia copertura salterebbe. Fino all'ultimo capitolo in cui troviamo Yolanda Granato. Sam, rilevo nemici lungo il tuo vettore. Non farti scoprire. Nel secondo capitolo, Pandora Tomorrow, troviamo nel cast di doppiaggio anche una presenza illustre, addirittura proveniente dal mondo della musica italiana, Morgan, che interpreta il dittatore indonesiano Suadi Sadono. Ascoltiamolo. Chi ti dice che ne rimanga uno solo? Porta accanto. Centinaia. Hai dei figli? Ah! Quanti figli? Dove sono ora? Ah! Ok, direi che può bastare. Il sound design della serie Splinter Cell ha mostrato i muscoli fin dal primo capitolo ed è andato perfezionandosi con l'uscita dei capitoli successivi. Essendo un titolo basato su missioni di infiltrazione, l'ascolto dell'ambiente circostante è un fattore imprescindibile. Per questo Ubisoft ha riposto grande cura nel sonorizzare gli ambienti di gioco le armi da fuoco e i numerosi gadget a disposizione del protagonista, dando vita inoltre a delle sonorità che sarebbero divenute iconiche dell'intera serie, una tra tutte il visore notturno di Sam. Le colonne sonore dei capitoli di Splinter Cell sono firmate da vari compositori, tra cui Amon Tobin, Jasper Kidd e Michael Kloman, alcuni dei quali parteciperanno anche a future produzioni Ubisoft, tra cui Assassin's Creed. Uomini, alle armi! Uccidete gli assassini! Tutte le colonne sonore hanno in comune sonorità elettroniche, action e di atmosfera, liberamente ispirate allo stile hollywoodiano tipico di Harry Gregson Williams. Eccone un esempio, direttamente dalla colonna sonora di Splinter Cell Conviction. Anche per questa puntata è tutto, ragazzi. Io vi do appuntamento al prossimo episodio di Passione Sound Design e rinnovo l'invito a visitare i miei blog www.passionesounddesign.blogspot.it e www.carlomix.blogspot.it ed iscrivervi alla pagina Facebook di Passione Sound Design. Continuate a seguirmi su Dietrologia Videoludica. Alla prossima puntata! Grande Carlo, come sempre, insomma, è un po' strano averti qua e averti là, sentiamo il registrato, poi dopo possiamo commentare con te. Innanzitutto, vabbè, anche questa ennesima disamina del comparto del sound design, insomma, dell'aspetto sonoro, insomma, in generale, di Splinter Cell, che è una saga che io non ho mai avuto proprio insomma, Marco ci ha provato qualche volta a spiattellarmi. Addirittura ne sono comprato uno per PlayStation 3, che scattava da morire. Era il primo, poi manca di che era l'ultimo, proprio il primo se non sbaglio. No, è uno recente, era forse uno dei, non dico non l'ultimo, non era, ma forse il penultimo o il terzultimo. Vabbè, comunque detto questo, vabbè, ennesima disamina, insomma, interessante. Poi non so se Marco e Giuseppe vogliono dire qualche cosa, però proprio in merito a passione da sound design, diciamo una cosa, che Carlo oggi parlando, insomma, mi ha comunicato l'esigenza, insomma, di dilatare un po' il tempo, insomma, di realizzazione di Passion Sound Design, che sapete viene pubblicata una puntata sì e una puntata no, quindi fondamentalmente un episodio al mese. Lo sbattimento che ci vuole per fare un lavoro come questo, che anche se dura 4 minuti, 5 minuti, 6 minuti, comunque è uno sbattimento, insomma, bello grosso, per quanto poi Carlo sia un professionista in quello che fa, sia dal punto di vista del sound design, dell'editing e anche della registrazione, reperimento dei materiali e quindi anche la conoscenza di quello di cui va a trattare, è chiaro che comunque è uno sbattimento sovradimensionato. Il riscontro poi è stato positivo, cioè nel senso che molti hanno dato, insomma, un buon feedback, anche se poi alla fine, insomma, diciamo, ci si pone un po' il problema sul quanto i numeri valgano la candela, perché, insomma, è come abbiamo detto, è come il videogioco, quando facciamo podcast e facciamo quello che facciamo per passione e sottraiamo del tempo, non dico al lavoro, ma ai giochi, ma lo sottraiamo ai giochi e anche alle persone con cui ci piace stare, insomma. Quindi capisco, insomma, che per Carlo è un impegno. Io me lo immaginavo, insomma, che sarebbe stato, insomma, uno sforzo un po' sovradimensionato. Quindi Carlo in questo momento si trova nella condizione, giù poi Carlo dillo tu, insomma, magari, che forse è di dire non so quanto riesco a reggerlo a farlo così. È un peccato, perché in realtà sappiamo, insomma, che piaceva a tantissimi. So che in questo momento molti stanno mettendo le mani nei capelli, però è una decisione che merita non rispetto di più, proprio per quanto mi riguarda, perché io gli ho detto pure a Marco, io faccio fatica a fare Geronto Gamers, figurate lui a fare quella lì, ma non perché fare Geronto Gamers è difficile, ma perché sono talmente standardizzato a fare un certo tipo di discorso che è più facile editare una puntata che mettersi lì a fare i Geronto Gamers, cercare i suoni, metterli, montarli, mettere gli effetti ambientali, roba del genere, che è una gran rottura dei cazzi. Quindi può essere che smettiamo di fare pure quelli e poi fa il culo. No, comunque smettiamo anche il podcast. Smettiamo anche il podcast. Io ringrazio innanzitutto comunque tutti quelli che, insomma, sia della cricca di PN che non, insomma, anche gli ascoltatori, che comunque alcuni, purtroppo pochi, infatti ironizzavo la puntata precedente sui miei fan, i miei fan, purtroppo mi piacerebbe, insomma, averne in questo senso, insomma, ma vuoi, comunque riflettevamo anche un po' sull'unicità, no, in qualche modo del prodotto Passione Sound Design qui in Italia, cioè di podcast ce ne sono a bizzeffe, di opinioni su YouTube di persone che parlano anche del doppiaggio di videogame ce ne sono a bizzeffe, però diciamo che una disamina tecnica su audio, doppiaggio e quant'altro, io, correggetemi se sbaglio, però nel nostro paese non l'ho mai sentita, insomma. E non per darmi le pacche sulle spalle da solo, per carità, però come diceva appunto Simone, la preproduzione, la produzione e la post-produzione, tutta la decina di minuti che dura un episodio, a me dura non meno di una settimana. Questa cosa magari stupirà molti saperla, questa cosa, però è così, è un dato di fatto. E purtroppo diciamo che alla fine della fiera, con tutta la non volere essere venali sui numeri, sulle cifre, che insomma ovviamente si scontra anche un po', no, con il fattore di passione, insomma, perché se uno una cosa la fa per passione e basta, non vuole niente in cambio. Nel mio caso anch'io, insomma, ho iniziato l'avventura sotto questa stella, però insomma, ecco, la risposta che ho avuto fino adesso è stata veramente pochina. e non vorrei, diciamo, magari arrivare al punto tale che magari una trasmissione come la mia magari disturba, fra virgolette, insomma, l'ascolto di magari di chi vuole sentire un podcast tra virgolette con persone che chiacchierano fra di loro di giochi e cose del genere. Quindi comunque mi perdoneranno, diciamo, gli affezionati della rubrica, ma temo che, diciamo, morirà purtroppo lentamente, diciamo che se staccheremo la spina magari è bello far morire lentamente le cose. Probabilmente insomma ci concentreremo su altri aspetti, poi con Simone insomma dobbiamo ancora pianificare. Sì, le idee non mancano, ragazzi, assolutamente. Ovviamente, ecco, aspettiamo anche la vostra, insomma. Io passo la palla comunque a voi, a quelli che sono magari stati i sostenitori, anche chi ha sempre ascoltato gli episodi ma non ha mai commentato in qualche modo, insomma, dite la vostra. Ma adesso sicuramente avete l'opportunità di farlo, perché altrimenti così, non ne avete più, insomma, in questo senso. Per cui, diciamo, io mi aspetto una... No, beh, perché si vuoi che non dite niente, benedetti. Maledetti, ascoltate e dire niente di mortacci vostri. Ecco, insomma, se vi piace battere un colpo, io mango. Scusa Carlo, che abbiamo rovinato un po' il momento, ma questo è dietrologia musica triste qui, no, mentre di queste cose. C'era il famoso violino lì, esatto, che rimediarlo. Ma che ci vuole, anzi l'ho messo già. Ah, è vero. E va bene. Mi dispiace, so, Giuseppe, poi non so se vuoi dire qualcosa. No, ma a me dispiace anche perché no, mi avete colto alla sprovvista, lo so. No, anche perché per come l'avete cominciato sembrava, diciamo, una semplice dilatazione del uscirà con cadenze più lunghe, invece se ho capito bene se ho capito bene ne avete appena decretato la morte. Sì, no, in realtà ci saranno altre puntate, sì. Cioè, questo, però la cadenza sarà molto, come dire, molto più dilatata, molto dilatata. E poi vabbè, vediamo, so, perché lui per esempio so che ha in, Carlo, vabbè, non diciamo niente, no, ci sono altre puntate già in programmazione, però vabbè, cioè, ci vuole un po' più di tempo, perché ribadisco, sembra, lo dico io a favore di Carlo, lui, in realtà sarebbe lui che dovrebbe spiegarlo a noi, ma in realtà facendo questo da 5 anni lo so, cioè, ragazzi, sembra una stronzata, però è veramente tempo che levi, e se tante volte ti manca il commento, perché guardate, non è una questione di ascolti, perché noi con archeologia videoludica, ho detto, eravamo arrivati a picchi, insomma, di migliaia e migliaia di ascoltatori, ci ha fatto veramente molto piacere. Poi le cose sono un po' ridimensionate negli anni, non tutto è, però non è tanto il numero, gli hit, i click, i download, roba del genere, è anche la mancanza di noi percepiamo, diciamo, l'entusiasmo di chi, quei pochi magari che ci ascoltano, con il commento, con la partecipazione, con la richiesta magari di perché non fai, magari mi parli di questo, perché non ci spieghi di quest'altro, roba del genere, cosa che stranamente su una rubrica come questa, che secondo me è veramente unica in Italia, probabilmente gli mancava l'aspetto video. Cioè, se fosse stata fatta su YouTube così, con quest'audio qui e il video, secondo me altro che 10.000, 15.000, insomma, probabilmente avrebbe funzionato meglio, ma magari la ripenseremo anche un domani, magari ci si ragiona sopra. Però ecco, se non c'è partecipazione si perde anche un po', come posso dire, la motivazione per cui fa sta cosa, perché quello che noi facciamo lo facciamo, è uno scambio tra di noi, il fatto che questi podcast ci hanno permesso di conoscerci, di diventare amici, di uscire a cena a mangiare la pizza insieme, di divertirci, guardare film, roba del genere, ma ci hanno anche permesso di interagire con persone, a volte delle persone stimolanti, delle persone che fanno delle critiche costruttive, a volte dei rompicazzo che non finiscono mai, quello che vi pare, però sempre comunque col fatto che c'è stata questa interazione, che per noi è sempre stata importante. E come avete visto, insomma, alcuni podcast anche di PN stanno un po' zoppicando, diciamo, ultimamente, se non addirittura andando, insomma, verso una naturale conclusione, e questo fa parte un po' del rapporto che ci abbiamo con voi, dove c'è più vita si rimane in vita, dove c'è meno vita si lascia perdere, perché è chiaro che è così, insomma, d'altronde Bene, bene, bene. Ragazzi, quindi insomma, fatevi sentire magari con questa cosa. Io ringrazio comunque tutti quelli che hanno espresso comunque la loro, il loro sostegno, che mi hanno scritto su, sui social, insomma. Gli strumenti per raggiungermi, per raggiungerci, ce ne sono pure troppi forse, per cui ringrazio, però ahimè non ho materialmente proprio il tempo di soffermarmi su progetti così lunghi per così tanto tempo. Mi piace comunque pensare di poter dilazionando il tempo a mia disposizione magari concentrarmi su altri progetti più piccoli che magari sono diciamo altre idee, sì sì, vabbè, dopo ne parliamo di questa cosa, sì. Insomma, però, comunque scriveteci, scriveteci adesso che Carlo non comunque questa cosa, insomma, è così, posso firmare la liberatoria per free playing, okay, te ne puoi andare allora tranquillamente dall'altra parte, quindi saluta anche il pubblico di Ideologia Videoludica. Assolutamente non ci servi più oramai. Salutiamo Simone. Scherzo, gli altri di free playing, salutiamo sempre che ci ascoltano. Va bene ragazzi, Giuseppe, riferimenti e cazzi e mazzi. È triste, Giuseppe, è triste. No, sono sconvolto e spero che poi nell'ultima parte stesse davvero scherzando gli ultimi 5 minuti, gli ultimi 2-3 minuti. Cioè hai quello del free play? No, sì, sì, stiamo scherzando. Stavo scherzando chiaramente. Allora niente, mi trovate sempre su tutti i vari podcast di PN Multimania, quello che è, insomma, potete trovarmi sui vari social come Giuseppe Saso, Peppe Saso, stessa cosa tutte le varie piattaforme di gioco. Il mio blog su Tumblr lo sto cambiando, per cui se l'indirizzo quello che avevate prima non vi risulta più la pagina web, è perché appunto è in progress. In realtà ci sto anche caricando per una cosa con un altro indirizzo, però non è niente di definitivo. E infine trovate il podcast sui videogiochi di ruolo, anche questo facente parte del network di PN, all'indirizzo www.occhiodelbeholder.it o cercando semplicemente l'occhio del Builder su iTunes. Perfetto. Carlo? Dietrologia Videoludica, Facebook come Carlo Burigana e sul mio blog passionesounddesign.blogspot.it, carlomix.blogspot.it, insomma sono i miei blog di riferimento, diciamo, ecco, sto lavorando molto più sul blog quello videoludico, appunto, che è Passione Sound Design, e dove trovate insomma che rimarrà assolutamente comunque conterrà i miei progetti a tema videoludico, quindi recensioni o varie collaborazioni con altri portali, e insomma dove si potrete sentire anche la mia voce volendo. Quindi lì fondamentalmente. Bene, Marco? Io invece sono rintracciabile come al solito su Google Plus, insomma, siamo io e Shatner sempre. In realtà lui non è potuto andare al funerale di Nimoy perché stavamo chattando. Perché l'ha detto, comunque rimane una grande infamata, Will, rimane veramente una cosa brutta che ce la ricorderemo. Bill, sei stato un po' merda, dai. Sì, diciamo, come ho detto merda. Io you've been a shit. Come lui ha detto motherfucker, what do you want, motherfucker? Vabbè, niente, su Google Plus, su Facebook, su Twitter, niente, tweet. Non ha capito come funziona, però lo fa. No, però per pigio dei tasti, niente, ci fare una cosa. Qualcosa. Va bene, per il resto dietrologiavideoludica.it, dietrologia videoludica lo trovate su Facebook e appunto Google Plus, lo trovate anche su iTunes abbonandovi gratuitamente al nostro podcast audio, mettete 5 stelle, fate una recensione. Questa è una trasmissione prodotta da Italian Podcast Network ed è a Retrocast, è giusto ricordarlo, quindi retrocast.it, dato che non l'ho detto all'inizio. dietrologiavideoludica@gmail.com è la nostra posta elettronica, e poi che altro? Basta, vai, insomma, basta. C'è il Twitter che è dietrologia dietrologia vide. Alla prossima Io puntata. Vide. Ciao a tutti. Stanno Gironto Gamers. Non lo sappiamo. Dipende se. Vedete dopo la prossimo annuncio. Se dopo la sigla c'è un violino triste. Non c'è stato Gironto Gamers. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao ciao. Allora,